Ma invece se ci vuoi pagare qualcosa. Solo quelli buoni. Ho capito. Va bene, benvenuti, bentornati in diretta con Tycoons and Dragons. Salutiamo l'Aus che è in un posto bellissimo. Salutiamo. Ah, non ti far molestare. No, vabbè, ma l'Aus lui si diverte in queste cose, però. Si diverte a farsi molestare. Esatto. Va bene. L'Aus ricorda che no vuol dire no. Allora, siamo qua, siamo con la maledizione di Katta, atto settimo, ce n'è ancora un po' se volete di torta. E giocheremo ovviamente anche oggi a Dungeons and Dragons, versione 5.0. Però ha compiuto gli anni lei. Ha fatto bene a compiere gli anni. Ha fatto bene a compiere gli anni la sorella di Vezzi. Dovrebbe compiere più spesso. Vabbè, perché liberaci del male? Amen. Non è dal male. Sì, è dal male. L'ho scritto male. No, non è la nuova versione. Catabriga non sa neanche le parole delle preghiere. Non è la nuova versione del Papa Nuovo. Però è slavo, quindi. Dopo si può correggere. Comunque, a parte questo, cambiato metà delle con cose. Me oggi Andrea Giacomo Vecchi da Bologna. No, abbiamo Stefano Gabberoni. Per la terza si sono consecutive. Sì, sono bravissimo. Edoardo Saladini. Fate domani il mondo finirà. Io la prossima non ci sono, quindi puoi fare quello che ti passa. E manco quello. Enrico Catabriga, Master Giulio Bosi. Salutiamo invece in panchina, in tribuna, Francesco Arcidiacono, anzi scusate, in palestra e al bar Luca Lazzari. Stasera devi bustarci perché non c'è Arci, è ora di finirla con questa cosa. E quindi andiamo a vedere subito se c'è Arci, tu hai capito. Ecco, ciao Kate, si dice. Per fortuna che non abbiamo veramente dei... Esatto, non ci segue nessuno. Non ci segue nessuno. Speravo che chi che sta seguendo? Enrico Gattabriga, ok. Tutto regolare. Salutiamo Enrico Gattabriga. E vabbè, prima si sta facendo arrampicata. Oltre a ricordarvi che ci potete seguire ovviamente sui canali social di Tycoons & Dragons GDR. Capito Giulio Bosi e Enrico Catabriga? Diamo inizio ci ricordati che a forza di scalare si diventa cieco. Vedremo se il grande interrogativo che tutti si pongono verrà risolto oggi. Cioè, ovvero... il piccolo è... Stavo a dire! Il grande interrogativo... Saliremo noi di livello, prima o poi? Lascio in questo senso la parola al Master che ci darà qualche notizia in merito. Molto bene, ben trovati, però cari avventurieri. Salite di livello. Se sopravviverete, ci sono delle buone probabilità. Vi avevamo lasciati l'ultima volta. Però dovreste vedere il ma video. Che cazzo è? Avete visto Big Mouth? No. Ve lo consiglio. È come è molto volta divertente. Ash vs Evil. Che sembra un cazzo. Esatto. Non... è un tampone. No, Katta, non ho Netflix, sono povero. E allora vogliamo dirlo a tutti? Neanche io lo guardo su Netflix. Io ho Netflix. Io Netflix non lo guardo, bene. La storia è che lei sono appena venute le mestruazioni per la prima volta e c'è un tampone con la faccia del cantante di R.M. che canta Everybody Bleeds. Ah, perché è questa? No, bellissima, hai ragione, devo guardare. Ah, questo? No, un capolavoro. No, è geniale. Posso dire che avrebbero potuto lasciare lo stesso testo e sarebbe stato uguale. Però solo per questa scena vale la pena. Cioè, io sono morto dalle risate. Quindi è molto consigliato. Ora, detto questo, se Netflix ci vuole sponsorizzare, ragazzi, magari ci vuole fare una serie su di noi, visto che noi non siamo riusciti a crearne una. Magari abbiamo un'idea sulla mia stazione. È vero, bro. Sì, no, ma joint venture o qualcosa del genere. Questa è la mediazione più brutta mai pensata. La nostra mediazione è bellissima, secondo me. Quale? Aspetta, quale? Adesso esce un cazzo di film. Quale? Quale di quelle? Reality isola deserta con la kill. Quella sì, hai ragione, quella era carina. Adesso uscirà Warner Bros. Se l'ABC volesse sponsorizzare questa serie... sceneggiatura. Dici davvero una serie simile? No, però sarebbe bello. Beh no, io sarei incazzato, cazzo, ci ho rubato l'idea. Arci, chi stai chiamando? Chi stiamo chiamando? Chi stiamo chiamando? Pronto? Arci? Arci? Cosa? Arci? Rispondi, hai chiamato Arci? Arci, hai messo la magnesite. Potremmo chiamare Las però, perché secondo me non sta facendo un cazzo. Però Las sta lavorando, non capite niente. Sì, basta. Prego, che stare con noi. Beh, prego, fallo. Episodio 7. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con... No. Ho visto cosa succede. Io chiedo il tuo locale. E io ti guardo. Non so, come si fa a fare la chiamata anonima? Su cosa? Su Skype? Non lo so, cazzo, ne so. No, su, ah, sul cellulare. Non ho più 14 anni. Non so, questa è nelle impostazioni, semplicemente. Sì. Vabbè. Ma a parte, se no, io dicevo che ha chiamato WhatsApp. Bomberi comincia. Oh, siamo pochissimi, forse oggi non cazzeggiamo. Forse oggi li vediamo. Approfittiamone. Per 10 minuti sembrerebbero suggerire il contrario. Ma quello è per scaldare. Stavo per chiedertelo io in realtà. Allora, cosa è successo l'ultima volta? Grazie, era buonissimo. Come? Non c'era lui però l'assunto. Ho fatto io l'altra volta, non è che posso farlo sempre io. Invece, appunto, per approfittare di questi eventi eccezionali. Lui ha detto, fallo tu, io non c'ero, è automatico. Lo faccio io. Ah, vabbè, non è successo. Che? No, non è successo molto, no. Ah, lo fa lui perché è l'ultimo riassunto, poi cambia PG. Esatto. Ah, è vero, hai ragione. Io. È vero. No, l'occasione per morire l'avevo già avuta. Allora, siete arrivati, aspetta, dopo aver sai fatto chi ti sta inseguendo. Un giretto nella città, nella chiesa di Sant'Andro. Ah, è vero. Ma allora, vuoi buttarlo dentro? Vuoi che lo faccia l'assunto? Tonello. Vai. Allora, siamo arrivati a Vallacchi. Dai, chi mangia la torta? No, Giulio, non fare la finta domanda. Ma ragazzi, su, è da finire. Il piatto non l'ha mangiata. Esattamente le cose. Ma io ho già mangiato due pezzi. Siamo arrivati a Vallacchi, una città dalla strana forma. Palestra. Va bene. Beh, è vero. Sembra tipo un pancreas. Sembra un gastrino, dai. Ok. Beh, è più grande di Longastrino. Te l'ho già fatto vedere. Quanti abitanti ha? Tipo almeno 2000. Ci sono quelle pubblicate. Dovrebbero essere sotto al migliaio. Ah, allora è più piccolo di Longastrino. Anche perché voi vedete un sacco di case, ma molte. Una buona parte sono disabitate. Comunque va bene. Mangiare direttamente da lì. Vai, mangiare direttamente da lì dentro. Longastrino, vuol dire Vallacchi. Vabbè, poi Longastrino è la forma in realtà forse migliore, perché di questa forma ci siamo già lamentati. Mi stavo lamentando. Ma è questa dove abbiamo visto che era esattamente quella. Allora, con sotto una frase. Praticamente, vabbè, alla porta della città abbiamo visto delle teste di lupo. E abbiamo scoperto che foto profilo con una frase alla Rocky. Quella è carina. Scatto dopo è Giulio. Lo scatto dopo è il sacco che stende Giulio. Uso te come sacco? No. Scusami. Grosso. Va bene. Detto questo. Beh, abbiamo scoperto che in città praticamente sei obbligato a sorridere. Sì, per legge. Per legge. Abbiamo scoperto che Vez vorrebbe vivere in un posto così. Non il mio, esatto, bravo, però non il mio giocatore, ma non il mio personaggio, ma non, esatto, no, io come giocatore ho ritenuto alcune leggi. Ha scritto una lettera al governo chiedendo che aggiungano veramente questa dittatura legge. Del sorriso. La dittatura, bellissimo, anche già un nome per i giornali. Ma penso che non lo abbia. Come se lo proponi a tipo gente tipo Toninelli, ti dice sì. Ciao Toninelli, se ci stai ascoltando, apri la tab perché se no l'Europa ci fa. Chi se ne frega andare a Lione, Salla? Chi se ne frega? Giusto, però vabbè, vai. Comunque, praticamente ci sono varie feste che vengono organizzate dall'interno della città. Lo smile da parte del comico del come simbolo dello Stato. No, chi è il barone? Come si chiama? Vargas, Vargas Vallakovic. Va bene, che è il barone, anche il borgomastro di questa città. E noi di fatto siamo finiti in mezzo a due festività. Il suo lavoro nell'altro borgomastro. Siamo finiti in mezzo a due festività. Una è quella dei lupi, dove venivano uccisi i lupi. E una è quella attuale del mattino splendente, insomma, stato sa che sono tutte a quanto pare abbastanza uguali. Dove splende il sole a quanto pare per tenere occupata la Tra l'altro, esatto, il sole splendente che non. Però chi non gradisce, chi non sorride, viene messo alla gogna. Esatto, non è questo. Noi siamo andati nella chiesa di Sant'Andral. Perché Kojonovic ha detto che era il posto più sicuro sostanzialmente della città. Solo che quando siamo andati credeva. Lì, almeno così credeva. Quando siamo andati lì, però, hanno detto Kojonovic, come diceva il nome, non aveva del tutto ragione. Perché sostanzialmente quello che a quanto pare Kojonovic non sa niente. rendeva così sicuro questo posto erano delle ossa del santo che erano state trafugate. Come si chiama? Sant'Andral. Me lo sto scrivendo nella scheda. Certo. Sì, perché ce l'ha lui. Andral con l'H. Ah, no, reliquia di Sant'Andral che l'ha rubata. Ah, bravo. Mentre tu ti facevi uccidere. Anche tu, giusto? Hai un osso di Sant'Andral. Ormai non è rimasto. No, decidi. Quando decidi, sappimelo dire. Cioè, praticamente io apro il sacchetto, prendo l'osso. Dopodiché, ah, io magari ti vedo. Custodiscilo. Ah, ok. Comunque, tieni. Alla fine, l'ultimo arriva. Grazie alle nostre grandi capacità di indagine. Chi prende l'osso più corto? Abbiamo scoperto che il ratto delle ossa era dovuto a una triade composta da un bambino capriccioso, quello era il testimone, un adolescente insicuro, un emo adolescente e un vecchio pervertito. Vediamo, c'è il 30%. Che per 30%? Anche di prenderlo o di non prenderlo? Da 1 a 30 non lo prendo. Cos'è? Per capire se disturberà il mio riassunto. Cazzo, ho fatto 3. No, ma sei comunque riuscito a farlo, tranquillo. Ok. Non prendo l'osso, prendo l'intero sacchetto. Comunque, abbiamo recuperato le ossa dal vecchio che le doveva vendere per una cifra molto alta. Esatto. E l'abbiamo capito come funziona il gioco. Con noi perché ormai è rassegnato al fatto che se arriverà il compratore lo vorrà uccidere, quindi cercherà poi sicurezza nelle mura. Io sono però tornato nella chiesa. Io sono tornato indietro però per recuperare parte delle sue ricchezze, tornare alla chiesa e un po' di vestiario per comunque questo povero uomo. E però sono andato stupidamente da solo e quindi sono stato attaccato da una progenie vampirica che a quanto pare risiedeva lì insieme al vecchio, perché non ne aveva fatto parola all'epoca. Aia. Comunque sono riuscito fortunosamente a fuggire. Molto, a fuggire. Beh, ero sfortunato all'inizio, fortunato dopo, quindi insomma, diciamo, con abilità sono riuscito a fuggire. Ricordiamo, non prima di aver giurato eterna vendetta. Ho giurato però eterna vendetta. Mi vendicherò! Mi vendicherò, ma non adesso. Ma non adesso. Non adesso. E infatti torno con spirito. Ti uccido dopo. Con spirito vendicativo torno subito in chiesa e a cercare delle cure perché è tipo esatto, e trascinando e arrivo lì e dico, no dai, ha ben 11 punti ferita e dico allora è successa una cosa di grande gravità. Io tipo sto picchiando. Loro stanno giocando con le ossa. Intanto vabbè, possiamo aver fatto un riposo breve mentre lui ha fatto sta cagata. Con me ho le cose le ricchezze, però giusto quelle è riuscito a prendere la borsa. Sì, certo, allora, certo, perché sennò mi in merda. Quelle le dono subito alla chiesa. Ok. E cioè al prete, a mi ricordo come si chiama in realtà, neanche io. Prete si chiamava Padre Lucian. Lucian. Petrovic. Queste sono per la ricchezza della chiesa, per aiutare la chiesa. La ricchezza della chiesa. Guarda, è diventato molto più chiaro. Oh, incredibile. È vero. Cazzo, è successo? Perché mi sono alzato forse. Quindi non è fermo. Non lo so, ragazzi, perché prima era rossa e adesso è normale. Oh mio Dio. Vabbè, mio anziano amico, cosa ti è successo? Ah, è vero che hai un aspetto orribile. Sono stato attaccato da una progenie vampirica che abitava la casa di quell'uomo. Tutti si girano verso di te e poi verso di lui. Mi alzo e vado dall'uomo. Lui ha la testa tra le mani e fa dondola. Mi do un calcio in bocca. Cioè, vabbè. È peggiorato Giulio in queste 2 ore. Lucian ti dice: fratello, sei in un luogo sacro. Ah già. Com'è che si chiamava il tizio? Qual è il simbolo sacro di questo? Di questa chiesa? Uomo sfortunato. Tu sapevi di questa invasione di casa tua? L'uomo sfortunato aveva il nome di. Il simbolo sacro di questa chiesa è la chiesa del Signore del Mattino. No, nel senso, però che gesto si fa? Tipo, no, al posto del segno della croce. Al posto del segno della croce. Ah, Si saluta il sole. Ok, poi, allora alzo il tizio così. Okay, e poi si abbassano le braccia in questo movimento. Così, no? Hendrik van der Voort. Allora dico, padre ha ragione, Voldemort. Prendo il tizio, lo alzo Voldemort. Facendo il saluto del sole. Forse dovevo aspettare. E lo butto a terra. Cosa fai? E lo brucio. Aspetta, cosa fai? Non ho... Sollevo il tizio col saluto del sole e lo butto a terra. Il tizio, il padrone della casa, cioè insomma il barone. Sì, non certo, il prete. Per ora. No, e non era scontato, capito? Ah, so come vendicarmi di lui. Il tizio. Lo culo. Il tizio striscia. Beh, per tecnicamente terra. Tecnicamente ormai sei consapevole di questa cosa. Ai piedi del padre Lucian, che è il mio cuore. Beh, perdono. Però ci... Chi è quella, chi è questa progenie che vive, malvagia, che vive nella tua casa? Da dove è uscita fuori? Da quale antro oscuro dell'umanità? Mi hanno obbligato, io non volevo. Cosa mi vuol dire? Obbligato. Stanno obbligando anche me. È un abusivo. Chi ti ha obbligato? Un abusivo. Sì, esatto. Parla ora, qui, davanti agli dèi. Al dio, dèi, dioni. Al sole. Sole. Al sole. Loro mi hanno promesso. C'è sempre la nebbia, che cazzo fa? Mi hanno promesso grandi ricchezze in cambio di quattro ossa. Era un affare. In effetti aveva ragione lui. Lo dici proprio. Ha dato 1000 monete d'oro. Quante cazzo le voleva dare? In cambio di quattro ossa. No, ok, sì, d'accordo, ma la progenie, cioè, no, cosa c'entra? Chi? Loro mi hanno promesso. Chi? Ma loro hanno paura quindi delle reliquie. Ma la progenie è una. Tu hai detto loro. Loro chi? Le progenie. Ah, ce ne sono più di una all'interno della tua casa? Ma stavo per dargli un altro pugno fa. Ah, no, è il compratore che era arrivato, quindi. Boh, non ho capito. Poi mi ricordo di... Che cosa? Sono confuso. Del Cavaliere Oscuro in cui... Ma gioca quindi erano già... Erano già nella tua casa o sono arrivate adesso? Stanno... Non iniziare dalla testa. Stanno in soffitta. Non so quante sono. Qualcuno va, qualcuno viene. Ok, bruciamo la casa. Ma no, scusami, quindi questi hanno paura, cosa gli servono le reliquie? Bruciamo la casa. Le vogliono? È arrivato bruciamo. Questo signore, un nobile. Vabbè, quello lo doveva far lui in realtà, io avrei fatto. Un nobile da fuori, si chiamava Vasili von Holtz. Vasili. E mi ha promesso di fare degli ottimi affari, se gli era interessato a queste anticaglie, non gli ho dato peso. Ho capito, ti ha lasciato delle progenie come souvenir, scusami. Sono dei suoi tirapiedi, come dire, detto da ora in poi non staremo qui. Beh, avvertiamo se no la cosa della città e sti cazzi. La guardia cittadina e sti cazzi. Sono d'accordo. Vabbè, diciamo, aspetta. Io avviserei. Tanto non abbiamo expo in base a chi uccidiamo. Role playing a livello volevo fare un insight per capire. Scusa. Se stavolta è sincero o comunque sa qualcosa di più. Possiamo andare direttamente dal borgomastro. Che è una roba comunque importante. Sì, avvisare la guardia cittadina, ma anche il borgomastro, cioè è una roba grossa. Ci sono diverse progenie vampiriche dentro una casa. Finché è giorno io avviserei tutti. Quella casa è infestata, forse Atanas non ha tutti i torti nel volerla io bruciare. Non ho mai torto. No, nessuno dice niente, quindi sono d'accordo con me. Noi suggeriamo, però. Beh, però lo sta pensando tu. La casa è isolata o è attaccata ad altre? Ci sono delle case vicine che ovviamente. Posso fare un insight anch'io? Prego. Ovviamente rischierebbero di prendere fuoco. 15 e vengono messe in sicurezza. Se invece volessimo raccogliere informazioni dalle progenie. Si può dialogare. Quello che vi ha detto è vero. Cioè entri e ti attacca. Non è molto facile. Entri, fai finta di essere lui con le reliquie. Tutto. E poi le inseguiamo. Ok. Tuttavia non ci sta dicendo tutto. Scusate, entriamo fingendoci lui. No, scusate, bruciamo la casa. Allora le progenie adesso, piuttosto che morire bruciate, tenteranno di uscire. Non bruciate, Atanas mi ha detto questo. Quindi Atanas dice che non è sincero, non ci ha detto tutto neanche questa volta. No. Questo è inaccettabile. Lo prendo e lo metto contro il muro e dico: qua, nella casa del signore, tu osi mentire a noi? Parla ora. Posso fare un intimidire con forza? Sì. Infarto. Posso aiutarlo? Come? Beh, posso dare il vantaggio io, visto che gli ho già tirato un pugno in faccia e l'ho alzato e sbattuto per terra. Insomma, siamo lì tutti minacciosi. E adesso estraggo una spada. Quella d'argento, perché siamo in chiesa. Allora, se posso aggiungere la forza, diventa un 16. Io vi ho detto tutto quello che sapevo, è tutto vero quello che vi ho detto. Parla, sì, ma non c'hai detto di tutto, di tutto, tutto questa volta. Loro stavano pianificando un attacco. Ah, così, parla così, no? Io sto già immaginando tutta la scena della tortura, vabbè. Cioè, vero, io sto pensando a rompere un dito del piede intanto. Un attacco di cosa? Ecco, per cominciare. Novizia. Cominciare. A questo no, posto. Si inizia strappandoli ovunque. Ah, va bene. Ok. Un attacco, scusa, mi sono perso se immaginavo alla che città, strappava la città. Uno. O alla chiesa. Chiesa. Alla chiesa. E le reliquie però gli servivano perché sennò hanno paura. No, le reliquie le doveva togliere perché proteggono la chiesa. E è la stessa cosa che ho detto io. No, ho detto che hanno paura delle reliquie. Beh, non è se proteggerà la chiesa. Tu e il barone. Beh, possiamo fare una prova. Prendiamo una progenie, infilziamo una nosso e vediamo. Le reliquie. Il barone non c'entra niente, è un vecchio pazzo. Ok. Ma e se gli dessimo delle reliquie false e li inducessimo a attaccare la chiesa con le reliquie vere? Ormai il vostro amico è stato visto. Saranno in allerta. Bruciamo la casa. Stupido paladino. Dobbiamo riposare e attaccarli per primi. Ma non possiamo avvisare la guardia cittadina? Che orario del giorno? Non so se possiamo fidarci della guardia cittadina. Beh, sono delle progenie, sicuramente vorranno cacciarle. Se vogliamo andare dobbiamo andare adesso, perché tra un po' è notte. Beh, ma ora siamo protetti dalle ossa però, nella chiesa. Sì, però il resto della città no. E soprattutto il discorso è che loro riescono a scappare. Oh no. O andiamo lì e andiamo a fuoco. Siamo in un bel guaio. Un bel guaio. Sì, è vero, cazzo. Ho collegato adesso. Non so se è così sicura questa situazione. Non lo so. Me ne frega un cazzo, non lo sai. No, io lo so. Siamo protetti a reliquie. Ero lì con te. Lo saremo anche dopo. Anche quando saremo dalla chiesa. Tu hai rubato, però non hai rubato tutte. No, ha rubato un osso. No. Però potresti aver diciamo corrotto il potere. Sì. Rovinato. Potrebbe essere che un osso tolto non fa più. Cos'è? Un uranio, materiale fissile che ne. No, cioè, magari ne togli uno e lo porti via dalla chiesa, l'effetto svanisce. Ma ne questo sai? Non lo sapete. Esatto. Dare così un'occasione a cazzo. Io un bel guaio. Guaio. Finché Sala è dentro la chiesa, la cosa potrebbe. Possiamo fare una cosa. Propongo una cosa. Qualcuno continua a torturata, a storcergli informazioni. Figa, bruciamo la casa. Sì, andiamo a bruciare la casa. Intanto qualcuno può parlare con qualche guardia, radunare velocemente qualche guardia. No, la burocrazia ci ucciderebbe. Le guardie fanno schifo, non sanno fare niente, sono degli stupidi. Ci danno una mano a dare fuoco a una casa. Ma va, ma sono... Beh, non ci vuole un genio a dare fuoco a una casa. Vabbè, tu sei un fenomeno a bruciare le cose, ma lo sappiamo. Padre Lu, padre polizia non si c'è una vecchietta. Consiglio in privato. Cosa? Mi chiede di parlare se potete parlare. Rifiutato! Se potete parlare in privato. Parliamo in privato. Perché, solo voi due. Perché adesso chi c'è? Siete nel mezzo della chiesa, ci sono i bambini. Mentre urlate, bruciamoli! Esatto. I bambini abbastanza impauriti. Cioè, faccia a faccia? Corre! È ora che cresce. No, di parlare con noi, ma non in mezzo alla chiesa. Sono i fedeli che sono abbastanza. Ah, ok. Ah, scusami. No, niente. Ci sono dei vampiri in città, però. Ah, c'è gente dentro, oltre a... Io non avevo capito che ci fossimo solo. Perché verso sera cominciano a virare i fedeli, perché appunto la sera c'è la funzione religiosa. Allora sì, caviamoci. La gente va lì per trascorrere la notte in sicurezza. Sì, andiamo. Oppure possiamo attrarli qua, dove è pieno di gente. Usarli come esca, sì. È per quello che dicevo, poi tu rientri, non lo so, però... fuori dal gioco, tu rientri, cioè tu aspetti fuori quando loro entrano in chiesa per fare il massacro, tanto uccideranno qualcuno. Cosa c'era, rientri così noi vediamo cosa fa la reliquia. La cosa figa, infatti, era da dare ad una tipo false reliquia al tizio, rimandarlo, ma vado io al posto suo, dirgli ecco le reliquie, attaccate, e intanto le reliquie sono dentro e loro esplodono. Però ci devono essere tutti. Solo che hanno visto lui, quindi vabbè, ma ha visto lui. Vabbè, però. Non ci fidano più adesso. Vabbè, cioè, se aspettiamo. Io direi di andare a bruciare sta casa, così dopo viene notte mentre bruciano la casa. E i vampiri entrano nella chiesa perché non ci sono nemici. Spoiler. Lucian mi chiede un colloquio privato. Sì, sì, allora, sì. Facciamo così, parliamo niente. Velocemente con lui. Vabbè, ah, quindi ho fatto per... malmenato un tizio davanti davanti sì. A delle povere vecchiette. Dei così bambini. Imparano. Io volevo sapere da lui, in realtà non mi interessa se lui si fidava cioè se noi potevamo eventualmente fidarci delle guardie del barone, perché questo è un problema che potrebbe riguardare tutta la città. Però se a parte John Cena tutto, non so se l'avete visto, un tizio grosso con un sì. Braccio strano, sì. Una persona abbastanza strana, non mi fiderei particolarmente di lui. Però chi è tutti tizio i ragazzi col braccio. Vabbè, non è che adesso perché è incappato. Aveva ordinato ai tizi di attaccare i manifesti. C'erano delle guardie che erano degli umani incapaci. E poi c'era sto qua che c'aveva tipo il braccio squamoso. Con gli artigli. E quindi tu dici che lui è il capo delle guardie e non ci si può fidare di lui. Sì, lui è il tirapiedi del barone. Ed è una persona. Vabbè, magari il barone. Abbastanza. Il barone non sarà convinto di sapere che sono delle progenie vampiriche. No, sarà molto preoccupato, ma non vorrei certo essere nei panni di chi glielo dirà. Se la città va purificata, purificata. Cioè, non è che possiamo un po' impedire infatti, questa cosa. Non è che è colpa nostra. Vi esorto a farlo, io non lo farei mai. Io nella mia mente brucia la città. Ormai sta avvenendo buio. Finché abbiamo le reliquie nella chiesa possiamo essere al sicuro. Quindi vi esorto a fare molta attenzione, perché, soprattutto perché questa notte qui verranno molti fedeli, praticamente le ultime persone che hanno un minimo di, cioè, il fatto che, sì, no, di bisogno di conforto in questa città. E come ogni sera noi ci raduniamo per pregare, per passare la notte in sicurezza. E questo ovviamente deve avere dato fastidio. Ma non ti senti un po' una merda? Ma scusate, la progenie non ci attaccheranno perché sanno che lì qui sono nella chiesa. Quindi tanto vale che noi andiamo intanto a stanarle. Ma secondo me dobbiamo andare subito alla casa. Cioè, o bruciamo, o diamo fuoco alla casa. Quello che Lucian vi dice è: dovete stare attenti perché una volta che caleranno le tenebre là fuori non ce ne sarà. No, passiamo la notte nessuno. In chiesa. Cioè, però queste dopo escono e ammazzano gli altri. No, qui, esatto, non sappiamo. Cioè, sono delle progenie, se questi escono e ammazzano no, tutti perché città. I fedeli. Allora, tra parentesi, io ho 12 di vita, lui 11 e lui 9. No, ma sì, infatti non mi sembra discorso, molto in forma per affrontare, cioè, delle il discorso mio è adesso, no, andare là, dare fuoco alla casa e venire via, finché è giorno. Senza vabbè, possiamo anche aspettare che la casa bruci un po'. Quanto tempo abbiamo? Sì, nel senso, evitare lo scontro. Fuoco controllato, la casa in una città e si propaga. Vabbè, la cosa del. Sì, non è che le case sono tutte no, isolate è... da una beh, cosa. No, da in realtà nelle varie case tiriamo fuori la gente e poi diamo fuoco a quella. Sì, ma ripeto, non è che noi diamo fuoco e poi cioè, ci mette un bel po' a bruciare. Brucerà quello che dovrà bruciare, cioè. Cioè, nel senso, non è che tu, tipo, tu vai qua sotto, dai fuoco alla casa e lo fai vedere adesso la casa. Legno, però. Per appunto per quello di dico, devi star lì finché non finisce bruciare, aggiungo un dettaglio. Tutta la città. Aggiungo un dettaglio. Le guardie si attiveranno per spegnere questo incendio. Il mio personaggio non è abbastanza intelligente, però se noi diamo fuoco a una casa senza avvisare la guardia cittadina. No, infatti la guardia cittadina ci viene un po' contro, secondo me. Decidiamo un po'. Nessuno saprà che noi abbiamo bruciato una casa. No, ci vedono farlo, qual è il problema? Beh, secondo me potete fare quello che volete. Ormai siamo entrati 25 volte in quella casa. Buttiamo dell'olio dentro la casa, picchiamo fuoco. La chiesa è al sicuro, deve stare nella chiesa. Dice a picchiare fuoco. Sì, però il problema è che le progenie scappano durante la notte. E vabbè, lasciamo scappare. Non torneranno mai nella chiesa se ora sanno che lì qui sono qua. No, sì, il problema è se vanno in giro a uccidere la gente in città. Ma i fedeli saranno in chiesa. Sì, ma dobbiamo eliminare. I fedeli verranno ammazzati. Ho capito, non è che ci penseremo il giorno dopo. Sì, non sono mica i miei parenti. Non possiamo andare adesso andare. Vabbè, andiamo a bruciare. Allora ci dividiamo, qualcuno va a avvisare la guardia. Allora, cioè, io vado a bruciare. Io non avviso la guardia. Io la guardia no, guardia morta. Lucia dice che non possiamo fidarci. Ho capito, ma cioè no, le guardie sono dei bravi ragazzi. Izek è un poco di buono. Cioè, il discorso è che se una guardia, buona o cattiva che sia, vede che tu dai fuoco a un edificio della città, certo, cioè, ti viene contro. Ma a prescindere. Ragazzi, noi abbiamo fatto irruzione in questa casa sfondando due porte contemporaneamente e nessuno ci ha detto nulla. Una porta è una cosa, dare fuoco a un edificio intero. Ma non è che da fuori Lo fai da dentro, cioè andiamo. Lo fai da dentro, no, perché bruci allora, anche tu. No, le guardie. Dobbiamo prendere non materiale. Mi sento. No, c'è, c'è tutto il coso di legna dove ci sono le bare. Tu spargi olio lì, dai fuoco ed esci. Di poterlo fare. Non interessa. Tu vai a avvertire le guardie. No, se voi vi sentite di nuovo avvisare, Garrosh si entra, si sparge olio sì, dove noi c'è legno, saremo già lontani, si non dà sta fuoco fuoco e per si bene. Esce. Va bene. Se lo riusciamo a fare in questo modo, cioè, in realtà loro sono anche molto sensibili alla luce. Però nel momento in cui aspetta, tu hai detto che andare sul tetto. Aspetta, tu hai detto che vuoi entrare? Entri tu, io non entro. E aprire il tetto. Ma tanto stai, stai dove è illuminato? C'è la progenie. Com'è scappato il nostro uscendo dalla porta? Non so, immagino. No, però vi dico, di solito si scappa dalle finestre. Questa volta è uscito. Quindi forse cioè, aprendo il tetto potremmo stanare. Sono due piani. Sì, abbiamo un'ora e mezza. Andiamo. No, più che altro se vado cioè, sotto. Entrare è pericoloso. Però se diamo se da stai protetto dalla luce del sole. Ah, cioè apri la porta e fai un passo dentro giusto per stare nella luce. E comunque entriamo in quattro, buttiamo il coso. Andiamo, andiamo verso la casa. Tutti insieme. Aspetta, c'hai dell'olio? No, un po' di quello che serve per le lanterne. Hai un barile tipo. No, due fiaschette. Vabbè, ma è di legno. Me ne serve poco. Siamo puraccio, vabbè, abbiamo un sacco di soldi, usiamo lì per comprare. Chi vende olio? Ah, c'è un come si chiama? Se no lo posso estrarre il grasso del tizio. Faccia. A proposito, esatto, di cose veloci. C'è un come si chiama? Ah, uno spazio. Allora, scusami, non lo so, qualunque non lo so, cioè però poteva non essere male la sua idea, cioè di lasciare via fregarci, no, di andare a dare le delle false reliquie, mandavi lui, esatto, però io. Il problema noi intanto ci riposavamo, allora, lui aspettavamo che lui no attaccassero il la problema chiesa, andavo io vestito da lui, lui no perché è una sega, se Race se la sente, aspetta, il problema però è che la loro che cazzo è? Aspetta, due cose. Beh, uno so. Dove troviamo una cioè, falsa che tu non me l'abbia detto. Con, cioè, vuol dire tanto da me non avrei mai giudizi. No, dico. Cioè, dovremmo fare una cosa super blasfema del tirar fuori uno scheletro di un qualunque essere umano sepolto qui accanto alla chiesa e il padre non te lo fa fare. Beh, basta andare in un mattatoio, prendere una delle. Va bene, andiamo allora, dov'è il negozio dell'olio? Conoscete il becchino. Esatto. Sì, però io non so, tra l'altro, se loro riconoscono le. Scusa, il becchino ti ha fatto scavare. Sono delle ossa. Fosse oggi. Hai 10 cadaveri da erano freschi. È uno straccio con delle ossa. Rompi un ossario, prendi le ossa. Noi non sappiamo se loro lo riconoscono. Vai dove buttano le ossa di pollo. Vado un attimo a dove sono le ossa, prendo il teschio. Vedi, è un cazzo di teschio. No, non so teschio se c'è. Il teschio c'è. Non so se loro riconoscono però le reliquie. Ah, sì, è chiaro, questo è chiaramente il teschio. No, è diverso da tutti essere, gli altri magari teschi. Magari a livello magico o di presenza. Può essere una buona idea, non nel so. Senso che magari io gli dice no. L'idea non è male. Attendete, mi cade il teschio perché i fedeli saranno tutti in chiesa e poi li aspettiamo lì e combattiamo sul nostro terreno. Ma lui ha detto il perché dell'attacco? Boh, perché sono delle cazzo di progenie. C'è uno spaccio che può averlo. Ok, andiamo allo spaccio. L'olio dici? Ma temo che questo bar ormai sia chiuso. Sì, tranquillo, ci apre. Aspetta, ma l'olio aspetta. Volete dargli fuoco o provare il piano? Quello finte? Di sale. Caso qualcosa qui dal fuoco lo trovo. Se volete fare quello delle ossa finte, secondo me è più. Deve essere bello, però è un po' rischioso. No, è più rischioso, ma in realtà è allo stesso tempo meno rischioso. Perché, ripeto, dare fuoco a un edificio in piena città non so quanto non sia rischioso poi per le conseguenze. Cioè, farci amici questa città in questo come modo. Come si chiama la divinità? Sant'Andro. Il santo è Sant'Andra, la chiesa dedicata una hai chiesa capito? Del Signore. Secondo me ha del senso provare quel piano. Il pretaccio cosa ne del pensa? Il Signore del Mattino. Il Signore del Mattino salverà i suoi. Il pretaccio cosa ne pensa? Di bruciare la casa? Adesso non sono molto pratico di queste cose. Essendo abbiamo la benedizione del prete. Aspetta, non ha detto così. Garrosh, il Signore del Mattino salverà i suoi. Io farei domattina. Giusto, prete. Cioè. Io dico, allora, non sono molto pratico in queste cose, ma uno, no, ma io ho detto che il signore del mattino salverà i suoi. Scusa, non possiamo solo chiederlo al tipo, secondo te ce la facciamo? Lo torturiamo un altro po' e gli chiediamo secondo te. Non è una questione. Fratelli miei, temo che alle prime avvisaglie di fumo si attivi comunque la guardia cittadina e venga a spegnere l'incendio. Quello che temo, e poi soprattutto metterebbe comunque in pericolo la gente lì. Invece in questo modo, diciamo che se venissero qua riusciremmo a evitare, cioè se non facciamo niente mettiamo in pericolo il resto della città. Ha delle ossa tipo resti di, del pranzo, tipo ossa di maiale, ossa di... Ti stava indicando il cimitero, ma vabbè. Vabbè, possiamo, vabbè. No, per me sarà per una buona causa, cioè per salvare molta gente, anche se facciamo una cosa. Sì, va bene, facciamo, vi pregherei. Cioè, quello che avevo intenzione di chiedervi appunto era di fare la guardia ai miei poveri ragazzi e i fedeli che ci saranno. In realtà gli consigliamo di non far venire nessuno stasera, di far tornare tutti a casa, perché se dobbiamo attirarle qui, qui deve essere vuoto. E però qua almeno sono sicuro. Ci sono, beh, ci sono delle cripte dove nascondersi. C'era la cripta dove erano tenute le ossa, che era sigillata, non c'è spazio per nascondere della gente lì. Io voglio fare tutta casa. Quella che viene questa sera. E che la come seppelliamo? Sia per la paura che c'è tra la gente timorata di questo posto, e preferiscono comunque essere in questo luogo. Dai, facciamo sto piano qua, facciamo sto piano qua e poi dopo difendiamo la chiesa. Ma da prescindere dalle idee, magari ci scappa anche un riposo breve, almeno a breve sicuramente. Vai, facciamo sto mossetto. Il piano quindi è? Prendiamo delle ossa. Il più possibile simili alle reliquie, e dice: le ho recuperate da quel manigoldo che ormai giace esanime da qualche parte. Gli diranno una del genere. Ah, ci saresti tu. E quindi vabbè. Cosa? Non voglio dare suggerimenti. Serve una prova. Dice, servirebbe una prova, tipo la testa di qualcuno. No, la testa no, però magari basta. Non è un problema. Un braccio. Faccio io. Ma non puoi camuffare. Tu che cos'hai? Un... tipo un simbolo sacro, ce l'hai? Sì, dovrei sì. Fammelo vedere, me lo fai vedere. Poi è quello. No, non lo prendo il simbolo sacro. Beh, perché no? No, glielo faccio vedere, ma non lo prendo. Perché no? È perché se poi rimane da loro è il tuo simbolo sacro. Ah, perché magari te lo prendono. Hai ragione. No, oppure se dovesse succedermi qualcosa. Se gli dici, no, glielo devo ridare, cazzo. Ti dici così, no cazzo. Vabbè, oppure te lo prendo, sì. Vabbè, è fondamentale. Se perdi quello succede qualcosa. Beh, sì, se no prendi la testa di un morto e camuffala come fosse la mia. Deve essere fresco. Deve essere vecchio. Ci avevamo dei morti freschi, no? C'è un cadavere abbastanza fresco. Oh, il povero Gustavo. Purtroppo ieri ci ha Gustavo. Gustavo. Era anziano. Io stavo pensando al becchino. Era abbastanza anziano. E si è brizzolato, si avvicinava dispiace a una certa età, e poi quel vizietto, allora io disseppellisco il povero Gustavo con tutta la Gustavo, per la testa, con tutta la delicatezza possibile. Comunque si ma prega. Tu avrai un elmo, avrai un sacco di roba, però è vero, tu hai un No, è più comodo il simbolo sacro nel caso. Vabbè, ma l'elmo glielo cade, se no faccio mai una non penso che lo faccio vedere. Ma lui non è entrato nella casa con l'elmo. Non è specificato se abbia un elmo. Ma poi non penso che sia entrato nella casa a recuperare le monete con l'elmo. Va bene. No, perché se hai l'elmo magari non ti hanno visto in faccia, quindi sti cazzi. Cioè qualsiasi testa. Scava sicuramente lì non ero con l'elmo in casa. Voglio delle ossa e una testa di base. Cioè una fresca e una antica. Sì, io prendo da una, sempre con tutta la delicatezza possibile, chiedo scusa al padre un paio di volte. E tiro fuori delle ossa da un lato, da sì, una, una fossa bella, più dai. Vecchia, e da un'altra dal povero Gust. Però è veramente orrendo. Cioè, okay, io con molto meno tatto. Cioè, il personaggio non gliene frega niente, però immagino padre Lucian che poverino. Io con molto meno Gustavo tatto. Gustavo vorrebbe questo. Prendo la testa di Gustavo e faccio fortunato bastardo nella regina. Chiederesti al posto mio all'ospite se devo dire qualcosa ai suoi amici? C'è qualche parola d'ordine, qualcosa che vi siete per farsi riconoscere? No, intimiditelo. In genere insultano e mi chiedono. Gli tiro un calcio sulle costole. Ah, volevo tirargli una martellata sul cuore. Perché? Perché mi stai mentendo? Non è importante. Di nuovo? No, vi giuro. La tortura funziona in questo modo. Esatto. Vabbè, ok. In genere mi chiamano un sacco di carne e mi chiedono sempre del piccolo prede tipo pollame o altri piccoli animali con cui placare la loro fame. Hanno sempre fame. E tu come ti comporti? Gli tiro un pugno. Io secondo tutte le cioè loro l'unica cosa negativa cosa del piano fare? Anch'io vorrei un pollo. Ora. Ora non servi più e ti ammazza. Troppo tardi. Beh, noi comunque siamo nelle vicinanze. Sì. È l'unica cosa negativa del piano. E beh, stai sulla porta comunque. Li chiami sulla porta? Non può perché è giorno. Deve entrare. Va bene. Divento il tizio. Vai. Camuffamento. Vabbè, no. Disguise self. Disguise self. Wow. Fanculo. Sarebbe? Divento lui. Ah. Okay. Nel frattempo vi altri. È così che si gioca. Lui si sbaglia. Lui si sbaglia e comincia a picchiare. No, perché ho il tizio lì e lo vedo. Cioè, lui non ha i lividi che adesso questo qui. Vabbè, aspetta però. Loro hanno visto che lui... No, io faccio anche i lividi. Cioè, esatto. Proviamo un modo per cui chiami. È meglio aiuto, che sia danneggiato. No, ho capito, non importa che sia danneggiato come è danneggiato adesso. Però il tizio. Un po' sì, ma rimaniamo in zona e se hai bisogno di aiuto. No, il tizio in casa. Ho tirato un calcio sulle costole, l'ho preso su, l'ho buttato per terra, gli ho dato due pugni in faccia. È molto amarrido. O ci mandi di pistola. Ma anche abbastanza. Tanto non può stare con lui. Ma ci parli da distanza. Infliggi questa sofferenza, ma magari fa un segnale un'altra volta. Guarda, comincia a strillare, dobbiamo intervenire. No, però tipo è telepatico con te. Ah, ok. Noi rimaniamo a distanza, nella zona, e con il pistarello con noi. Magari in cappuccia. Comunque avete sentito? Soprattutto il cappuccia, ti nascondi. Che il tizio è rassegnato, ha detto che tra poco sarà tutto finito, tanto. Io mi chino. No, è appena iniziato. Perché prima lo torturai per le informazioni, ora solo per piacere. Comunque io ho due sacchi, uno sacchetto delle ossa e uno sacchetto con la testa di Vez. Okay. Che ho camuffato. Gustav Vez. Hai un tiro buono per camuffare, eh? Datemi una mano per camuffare. Non hai un coso... La smartello, dico, cioè posso andare in barbaro per smussare. Non so, sì. No, c'è problema, stronzettino. So, io al massimo posso averla tagliata con non particolare cura. Beh, un vantaggio posso darglielo, con varie... Conoscendo il mio viso, posso dire. Ma secondo voi è credibile che le progenie possono crederci che ti ha decapitato? Può raggirare, potrebbe essere. Carisma. La mia paura è quella, che non ci credono. È intelligenza più. Beh, difficile. È uscito che era messo male. Metti che l'ha preso da dietro con una balestra. Sì. E poi l'ha decapitato. Mica deve averlo decapitato con una spada. Più che altro è una prova di caratteristica al quale tu utilizzi il kit di. In più ce l'ha suggerito il master. So no, beh, non è vero. Come tipo arriviamo lì? E fa. E fatto. Questo non mi fido di certo. Questa è la prova del tuo mezzo. 21, 23. Bene, una replica perfetta della testa di Valistra. Guarda, sei tu! E tu tra un poco. Allora, va bene, vado verso la casa. Sono invecchiato. Ok, arrivate alla casa, c'è... Puro la faccia. La porta che aveva varcato Valistra. Sono da solo io. Mm-hmm. Cioè loro sono vicini, ma non... Siamo dietro un'altra casa. Sono un blocks di distanza. Esatto. Io taglio i tendini delle gambe al tizio prima di andare via. Nell'attesa, ovviamente. Padre Luciano, sì, non può scappare. Se puoi lasciarmi. No, vabbè, se il prete è fuori dalla chiesa. Dai, poi lo butto dentro la chiesa. Allora, io volevo andare alla porta e imitare la voce del tizio impaurito. L'ho sentito impaurito molto spesso. per urlare in casa, tipo, non so lui da dove entra, no, quello sul retro mi sembra più appropriato. Per urlare tipo ho la roba con me, dove siete? però è impaurito. Questo è raggirare o anche raggirare. Si sì, posso usare anche però qualcos'altro, mi sa, intrattenere. No, ma raggirare più alto. Raggirare. 12 Mila. Più 6 18. Ok. Non senti nessuna risposta. Allora faccio qualche passo dentro, nella, lì nella cosa. Allora, lì sei nella bottega, sì, nel workshop. Esatto, e faccio un tiro di percezione. Vai. Per sentire qualche rumore. 14. Ci stiamo giocando un PG così. 15. Non è bene, tu dove siamo? Istanti. Molto? No, non troppo. Un po' sì. Silenzio. Minchia, stai per morire. Che cancro. Allora mi muovo silenziosamente. Ma urla. Ho già urlato. Ma continua, nel senso, finché non escono. Va bene, continua a urlare. C'è qualcuno? Cazzo, dove sì, siete? Non lo so, non è. Ma se si addentra dentro la casa siamo fottuti, non arriviamo più ad aiutarti. Capito? Ma stai qua che sentono uno che urla dove siete, dove siete. Cioè, non credo che lui entrasse in casa dove siete, dove siete. Beh, forse sì. Beh, per redimersi, urlando per la porta aperta. Ah no, urlando per la porta aperta, forse no. Allora, l'altra cosa che faccio è mi muovo silenziosamente per salire per non farmi sgamare. Stealth. Ah, non ho vantaggio però. Ma super stealth devi fare, sono merda, questi qui ti fottono. Capito, cosa devo fare? Mi ricordo. 16, aspetta. Dai. Sono 23. Dai. Ok, sali le scale in maniera super silenziosa. Arriva, non c'è nessuno al piano di sopra. Ma è già buio. Manca. Ci sono le ultimissime. Era un'ora e mezza. Era un'ora e mezza al tramonto. Mancherà un'ora. Siete al libro nero. Quindi sei certo. Arrivi che ancora lì in cima alle scale. Sì. Che è il giro da fare a questo qua. Sì. Quindi sei qua. Quindi qui vedi la. La stanza dove fuoco. C'era il cioè il letto lì. Facendo la stanza dell'armadio. Che era questa la stanza dell'armadio. Questo è uno stanzino con un tavolo tipo sale. Bellissimo, sì, ti prego. Aspetta, no, no, Piso metti taggando anche. Volevo anche salvare la foto, però vabbè, metto. Come apri la porta? Lo scrivi? Puoi fare lo screenshot uguale. In questo posto c'è una sì. figura seduta. Ah, faccio. Ah! C'è una progenie seduta. Una figura. Dove una sei figura. Stato? Sacco di carne. Io non è stata difficile. Ho visto il tizio fuori ferito. Che scappava. Un tizio fuori ferito che scappava. E allora ho deciso di inseguirlo perché usciva da questa casa. E quindi fortunatamente lui era molto ferito. E si è accasciato al suolo e ho potuto ucciderlo. Oh, mi sorprendi. Vabbè, ma era praticamente morto, non so cosa gli avete fatto. No, purtroppo è stato veloce con quelle sue gambette tozze. Non sono riuscito. Però visto che la faccia sembrava molto anziana. Sì, deve avere rotto le uova nel paniere alla persona sbagliata, secondo me. Infatti non doveva essere un pasto molto soddisfacente. Beh, se volete, ora che diventa buio, vi posso indicare dov'è, ma non so se vi può piacere da morto. No, abbiamo... Dovresti sapere che a noi piace il sangue. Per quello fresco. E dimmi, come mai sei tornato? Perché ho le vostre cose. Ah... sei riuscito a riprenderle dalle mani di quel gruppo di vandali che è passato prima. Ma non le hanno prese, le avevo nascoste. Hanno preso solo delle schifose ossa. Oh, sei pieno di sorprese. Grazie, sorrido, ma in realtà mi sto cagando sotto. Sia il personaggio sia io. E poi dico, però adesso vorrei sapere dove sono i miei soldi, ma mi sto comunque cagando sotto. Puoi chiedergli a lui. Indica dietro di te. Ah, dietro di me. Non scappo più. Mi giro e... Anche qui la finestra è sbarrata, vero? Le finestre sono tutte sbarrate. Sto scherzando. Ti giri e dietro di te c'è la testa capovolta di un'altra progenie che sta in piedi sul tetto, quindi siete tipo Spider-Man. Ah, cazzo, un urlo o un maiale? No, lo devi baciare, non è così Spider-Man. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, in realtà io potevo curarmi. Sì, anch'io potevo curarmi in teoria. Beh, se la cosa finisce bene per lui avete il tempo di un riposo breve. E... Las lavora. Cosa fa? La risposta. Lui ciao, prende al contrario per la collottola e ti dice: per colpa tua il piano rischiava di andare ai 4:20. Però l'ho anche aggiustato. Hai ragione. Per questo ti permetteremo di vivere ancora. Prega che grazie. Però stanotte tutto vada per il verso giusto. E ci conto. In realtà mi sto cagando su. E quindi volete farlo stasera? Come ti avevamo già detto. Non ti ricordi? Eh no, pensavo che però con il contrattempo ci aveste ripensato. No, non c'è nulla che ci fermerà. Va bene. Farà una scorpacciata da ricordare. Ok. Perfetto. Era giusto così per curiosità. Bene. E ora vammi a prendere un pollo, ho fame, e ti lancio giù dalle scale. Ok, grazie. E allora grazie. Allora grazie signore, posso averne un altro? Però lui non mi ha chiesto le reliquie, quindi io dico allora le reliquie le lascio qua sotto, però. Sì, però vorrei avere i soldi, come promesso. Non hai risposto. Vabbè, e me ne vado. Partagli un pollo. Appena esco mi nascondo, ciao. Vabbè, torno da loro. Torno da loro, faccio non so se l'hanno bevuta perché non hanno visto le reliquie. Però la nostra mossa l'abbiamo fatta. No, gliel'ho lasciate mentre uscivo. Cioè sono riuscito a uscire senza farmi. Molto coraggioso. No, ma nel senso ti hanno creduto se non ti hanno attaccato. Ma non hanno esaminato le reliquie, quindi però non so se... Però la testa del finta, cioè, l'hanno vista? Non me l'hanno chiesta, io non gliel'ho data. Neanche la testa? Abbiamo la testa, che bello. Quindi come fanno a sapere che hai risolto la situazione senza controllare? Secondo me sono molto pieni di sé e quindi pensano davvero di aver ucciso... Quello strano. Sei stato molto coraggioso. Speriamo che il tuo inspiration. Gesto... Tanto la devo dare share. Tanto qualunque piano facciamo, a lui va l'inspiration. L'ha fatto lui. L'ha proposto anche lui. Stavolta l'ha proposto lui. L'ha proposto e realizzato. E avete il tempo giusto di fare un riposo breve. Riposo breve. Come funziona se adesso io mi allontano dalla chiesa quando loro attaccano la chiesa? Siamo sulla moda per raddoppiare l'inspiration. Ah, io uso un dado vita. E io quanto sono? Tu hai tutta. Non è che abbiamo... Non c'è. Non è che abbiamo 10 gradi di vita. Finché abbiamo combattuto non c'eri. Quando abbiamo smesso di combattere. Perché altro gli incantesimi non li recuperiamo. No. Vabbè, io ne ho usato uno, tanto di me sono inutili. Ho il channel, però lo recupero. In realtà stavo per spammargli un altro incantesimo dietro, però... A loro? A parte che saranno immuni a tre quarti di roba. Ma quante ne hai viste tu? Due. Solo due? Sono quattro. Ma probabilmente erano due che abitavano lì, poi ne arriveranno altre. Quanto sei? Ho tre ferite, quindi... Gruppo di calcetto. Certo, importante. Stavo per sbagliare il gruppo prima mentre ti ancora. Sono partito. Non so se già uscito. Ma tanto non ho mica mai risposto. Non so mai quando organizzare. Ho tre ferite, quindi 15. No. Come no? Adesso il tuo massimale 19, non 18. Ah sì? Fico. In realtà realtà potrei chiedere al prete se mi può curare. E d'oro sei sabato. No. Risponde. Cazzo, non ci sei mai. Cosa hai da fare? Più importante del calcetto. In Italia. Io mi curo uno o due danni vita. È un buon motivo. Va bene? Ma per chi? Cazzo, è vero. Allora, vediamo un po' io. Sicuramente. Sì, si fa finta di farsi male pur di non giocare con me. No, aspetta, gli ho di 10. Chiedilo a darci se c'è. Ma io non gioco mai a calcetto. Solo una volta penso di averlo visto. 5 più costruzione, giusto? Sì. Quindi 7 recupero e sono ora 18. Uno un altro, tanto sicuramente. Cata sta segnando roba, non è un buon segno. 11, quindi sono quello che posso fare. Sta segnando? Non si capisce. Allora, tu sei... Il periodo che prendeva lui appunti era un casino. Che sto ancora prendendo il colore. Ah, tu sei quello che ha più vita, perché, vabbè, lui ne ha poca di base, in più tutti noi siamo stati diminuiti da... Quindi andiamo avanti l'asu? No, quindi tu dovrai incassare tutto quello che vuoi incassare. Anche perché più o meno sei... Però posso dire la mia, ce la facciamo contro quattro progenie? Ci sono le reliquie... Ok, no, contro 4 a vis-a-vis, mettiamo no. Che le reliquie non funzionano chissà per quale oscuro motivo. Vis-a-vis? Perché non funziona? Vabbè, mettiamo che secondo voi ce la facciamo? Tu che le hai incontrate, sono molto forti. Noi dovremmo essere dico. Siamo fottuti. I fedeli ci faranno da scusa. Mi sembra molto da non è molto paladinico, ma pongo che il mio personaggio non sappia niente delle progenie vampiriche, a parte quella che abbiamo incontrato, era un bambino, quindi più che altro eravamo in 6. Ti chiedo seriamente, tu che ne hai incontrata una e ne sei uscito malconcio, secondo te abbiamo speranze? 4 contro 4 o è un suicidio? No, perché se davvero se uno contro uno era un mezzo suicidio, 4 contro 4 è un mezzo suicidio. Di Sant'Andalo ci proteggono e non abbiamo motivo per dubitare, vero padre Lucio? Beh, se le progenie assolutamente no. Se le progenie avevano la premura di portare via queste ossa, evidentemente a loro danno fastidio. Questo è sicuro. Magari voleva solo sgranocchiare. Ma padre Lucian sa in che modo si difendono. Cioè all'atto pratico sacro. Le ha mai viste? Rendono sacro. Qual è il simbolo sacro del dio del mattino? Sti cazzi. Ora dobbiamo capire come è fatta la chiesa e organizzarci per la pianta della chiesa è come quella dell'altra città. Cioè chiedo a padre Lucian. Alla pianta della città? No, della chiesa dell'altra città. Cioè chiedo a padre Lucian e al. Sono dei prefabbricati. E al paladino che dopo è scontato saperne un po' di più. Effettivamente, no, secondo voi all'atto ci servirebbe un prete? Qui in che modo ci allora, secondo me, fossimo un 4 contro 4, come dice lui, vis-à-vis, le prenderemmo pesantemente. Però, qua dove diciamo loro devono attaccare noi su suolo sacro, speriamo di avere un vantaggio. Secondo me, il personaggio è molto scettico. In più, possiamo, in teoria, abbiamo se ci hanno preso, se lui ha avuto successo. Potremmo avere un effetto sorpresa perché loro non si aspettano che ci sia. Vabbè, se vengono qui c'è sicuramente l'effetto sorpresa perché loro non sospettano nulla. A meno che non entri proprio in questo momento! No, aspettate. Non qui. Però aspettate, se queste reliquie proteggono la chiesa, magari. Infatti, magari non possono entrare. Magari non possono entrare, esatto. Quindi dovremmo fare in modo che entrino. Esatto. Vi ricordate anche le regole dei vampiri? Devono essere invitati ad entrare, giusto? Non entreranno mai in chiesa se non li invitiamo. Ma infatti secondo me non è una dipende casa, perché però. Luoghi pubblici, ad esempio la chiesa pubblica, non è una casa privata. Comunque un edificio con delle porte e delle finestre. Beh, in una locanda non devono essere invitati, possono entrare. Cosa ne sai? Di solito è così. In buffo. Di solito è così perché sono i luoghi pubblici, non hai bisogno di invito, sono di norma aperti. Secondo me dovremmo. Per chi ha bisogno, per chi vuole entrare. A meno che non ci sia dovremmo qualcuno poterli già far entrare che li vuole invitare e poi mettere lì qui dentro. Beh, se loro però entrassero... ma magari loro non possono proprio entrare se ci sono delle liquide dentro. Cioè, non loro si fermano alla porta... O magari... O magari entrano... vabbè, sti cazzi, ci vediamo domani. No, o magari entrano, però la cosa gli crea dolore. In quel caso avremmo un vantaggio notevole. Sì, ma mettono un piede dentro e dicono, oddio, brucio, e tornano subito fuori. O magari... Invece, se noi li facciamo entrare e poi entriamo con la reliquia, loro esplodono. Mi sembra molto rischioso. Non lo so, in realtà non ha tutti i torti, perché metti che è vero che loro sentono il potere delle reliquie e quindi non entrano, rischiamo che facciano poi una strage al di fuori della chiesa, cioè che si incazzano e boom, prendono i primi che passano. No, è buona. E il discorso dell'invitare, però non sappiamo effettivamente, facciamo una prova di religioni, effettivamente l'imbeccata, sì, del master, provare a intuire. Io darei un inspiration a Katta per l'intuizione del fatto che i vampiri devono essere invitati. Darei un inspiration a Katta. No, devono essere invitati in una casa. Se dovesse funzionare anche per la chiesa, loro non entrano. Loro perché potere, qualcuno rispetto chiama. A meno che non dobbiamo sospettare di qualcuno già qui dentro. Sa recitare il Padre Nostro di questa religione, diciamo, però... 20 naturale, naturale... Non capisci niente, no, scherzo. Naturale... È una cosa che lo farebbe incazzare a bestia. No, ma non sai niente, i vampiri sono esseri non morti. Quindi hai fatto... No, religioni è sulle ossa per capire l'effetto che possono... Che potere hanno. Esatto, che possono avere sui vampiri. Questo è molto molto utile, saperlo. Se il nostro fosse caduto, magari sai, se per caso riesci a sapere, però io volevo capisco che tipo manca un solo piccolo pezzo mancante che ho sempre ero grande piccolo. Cazzo, che bello, se non funziona un cazzo di e poi dirò è una fortuna averle recuperate tutte, esatto. Le ossa nella loro completezza donano la protezione dell'incantesimo Hallow, che è penso protezione. Vabbè, però se tu sei vicino, prendi il manuale. Ah, allora, quindi non è così forte come pensavamo. Vai a leggere. Beh, di quinto. Hello. Hello. Ma la vabbè, se tu sei lì, però. Non so. Cioè, usciamo, io tengo le ossa e poi le riporto dentro. Hello. You touch point and infuse an area around it with holy or unholy power. Ok. L'area può avere un raggio fino a 60 piedi. Quindi sti fedeli dovrà stare un po' stati. No, ha detto l'edificio. L'edificio è protetto dall'incantesimo. Quindi. Mi immagino che più vicino o più vicino. Spinto fuori. Ah, è l'intero edificio, ok. Intero edificio, quindi io sono dentro l'edificio, quindi vale. Allora ci sono i seguenti effetti. E quando esco, che è l'importante è che tutte le ossa siano all'interno prima dell'edificio. Prima cosa, celestiali, sì. Elementali, fino solo siano. Non possono entrare. Non possono entrare nell'area, quindi. Vedi, è come. Facciamo così: io le prendo. Ne. Stai aspetti, fuori. Sto fuori aspetta, e poi rientro. Aspetta. Allora, non possono entrare nell'area né possono fare i loro effetti di charm. Adesso sai come ci sente. Ne possono fare i loro effetti di charm. Ha masterato anche lui. Paura o possedere creature all'interno. In realtà no, perché il mio personaggio non era così cattivo come questo. Mi rendo conto che ogni tanto. Però Cabe era un dito al culo. Qualunque creatura non charmata, spaventata, posseduta da questa creatura non è più tale. Ma non possono entrare. Puoi escludere una o più creature da questo effetto. Vabbè, se lo fai. Vabbè, questo se lo lanci. Secondo. Puoi aggiungere un altro effetto all'area. Vabbè. Puoi scegliere. Dice così, raga. No, dicevo, ma il non possono entrare non dice altro. Non possono entrare. Sono dentro? I celestiali, gli elementali, i Fiends, non mi ricordo cosa sono, i Fae, non lo so. Fae sono le fate, i Fiends tipo i demoni. I demoni e i non morti. No, ma la mia domanda era, non possono. Lì non lo dice, però proviamo a capire. No, non possono entrare nel senso già di... dentro? Non possono entrare, è l'area. E se sono già dentro? Adesso vediamo. Quindi come... vengono esclusi. Ah beh, allora sti cazzi. Io che vediamo. Allora, puoi fare un altro effetto. Allora, puoi scegliere quale effetto si applica a, se si applica a tutte le creature. Vabbè, questo non possiamo farlo, ovviamente. Eh sì, quella che esatto. Può fare uno tiro salvezza sulla carisma. Sul successo ignora l'effetto extra. L'effetto extra può essere coraggio. E secondo me sarà daylight qua, immagino. Daylight, una no, forse no. Cioè il coraggio è per le, vabbè, non possono essere spaventate. Vabbè, ma anche prima, comunque vabbè. C'è darkness, immagino che non sia, che è oscurata la zona. E daylight invece c'è luce molto potente. La potrebbe anche magia essere oscura, sì. È di un livello inferiore dello slot utilizzato. E poi c'è energy protection. Ah, ma è pieno, c'è energy, sì. Comunque coraggio. E coraggio, ok. Coraggio. Anche perché per quello la gente veniva lì, perché sentiva il coraggio. Peccato, fosse daylight li avremmo studiati. Tipo, ecco, ma... prendi sto sacchetto, boh! Cioè, io se insisto su quello che dicevo prima. Dead bodies in the area. Non possono entrare, nel senso che non riescono a entrare. C'è proprio modi muro, sbattono. So che è stupida, però era questa la mia domanda. Cioè, non possono entrare, nel senso che... Se entrano succede qualcosa o proprio sbattono? Era questo che... Dice, non posso entrare nell'area. Ma... Né possono utilizzare il loro potere, di fatto. Quindi se noi stiamo qui con le ossa, loro non entreranno mai. Il nostro piano non ha molto senso. Beh, ha comunque senso in generale. No, perché... Allora tanto no, vale che lasciamo qua le reliquie e basta. Dobbiamo comunque portarle fuori. Perché loro arriveranno lì e proveranno così. E forse noi possiamo attaccarli... Ma se non entrano, usciamo noi. Però possiamo attaccarli tipo sulla soglia e poi rientrare. Loro, scappano a quel punto. Il loro interesse è entrare e mangiarsi. In effetti, non ci abbiamo guadagnato una sega. Però quello che possiamo fare è provare a attaccarle. Se ce la vediamo brutta, portiamo dentro le reliquie e li sbattiamo fuori. Secondo me, sì. Cioè, noi facciamo un agguatone fuori. E ce l'abbiamo. Mi sembra molto rischioso. Però è la cosa. È l'unica cosa. Cioè, creiamo invece una trappola, magari. Sì, all'ingresso. Anche. Fuoco, però come dice lui, tipo se gli facciamo, utilizzando le abilità del garzone che scava, una roba per cui posso, gli facciamo crollare giù, dopo lì diamo fuoco. Camminano sulle pareti. Vabbè, nel momento in cui sono giù, gli spariamo del fuoco, cammineranno infuocati sulle cazzo di pareti. Aspetta, però possiamo fargli una roba col fuoco, sì. Però le ossa io le terrei un attimo fuori. Ti spiego perché. Se facessimo tipo un cerchio di fuoco, fare in modo un cerchio di fuoco dall'ingresso. Dopo loro sarebbero bloccate tra l'ingresso e l'entrata della chiesa. Cioè, le fai entrare, porti dentro le ossa e incendi il confine. Sì. Questo sarebbe molto figo. Quindi torna a prendere l'olio. Come fa? Esatto, quindi Giulio. No, però non questo voglio ci sapere sta. Come questo ci sta. Diamo sto fuori. Io però, sto fuori però con le ossa. Dire, le pareti della chiesa sono di legno. Se mi ricordo bene, sì. Vorrebbe dire da fuoco alla chiesa, infatti. Devo controllare, ma... E ci crolla in testa. Cazzo, la chiesa di legno? Vabbè, sì. Fai un cerchio con l'olio. Facciamo un cerchio fuori con l'olio e poi... Distante dalla chiesa, però. Poi io sto fuori con le ossa, appena entrano vi butto le ossa, oppure entro io e do fuoco. No, possiamo anche noi stare dentro. Con fuoco entro. No, possiamo stare tutti dentro, no? Possiamo se no loro non entrano più. Loro arrivano lì. Possiamo fare possiamo anche fare il perimetro. No, farle entrare così. No, scusate, scusa. Il perimetro della chiesa. Sì. Cioè, possiamo anche, diciamo che loro entrano dall'entrata. Sì. Sì, pensavo al perimetro della chiesa, ma in effetti serve molto olio, magari non c'è. Però lo mettiamo qui al perimetro della chiesa. Quante entrate ha sta chiesa? Una? Sì, quella principale. E quindi quando loro arrivano, ma delle altre vetrate qua, delle altre... sono qua bloccati. Sì, ci sono delle finestre, c'è un campanile. Ma invece io dicevo una roba super più figa, cioè nel senso che gli bruciamo, esatto, che no, perché non possono sì, ma quello che finestra. Dico io è di mettere il fuoco qua. No, loro sono fuori, non sono dentro la chiesa. No, se loro entrano nella chiesa, gli mettiamo il fuoco davanti. Bruciamo, io entro col sacchetto delle ossa, loro sono costretti a uscire, entrano nel fuoco e muoiono. Fine. Sì, unire le vostre due cose. Cioè costringiamoli a passare attraverso il fuoco. Sì, unire le vostre due cose, farlo qui. Magari anche qualche cosa, tipo una trappola incendiaria o dei paletti. Tipo anche una cosa da... esatto. Tipo paletti, sì, paletti che si alzi. Sapete che i paletti sono... non li fanno una sega? No, sensibilmente... cioè, i vampiri sono sensibili ai paletti. Però non so, tipo delle picche infuocate all'ingresso. Quello non so quanto tempo abbiamo per preparare. Ha una trappola tipo che si alza. Quello e non lo so, escono. Però tipo dei paletti di legno che spargiamo d'olio e gli diamo fuoco. Sì, sì, sì. All'ingresso le potremmo mettere. Questa è la cosa, cioè unire le vostre due idee. Cioè preparare il cerchio di fuoco davanti alla porta e farci passare attraverso il fuoco e costringerli a rimanere all'interno di quel cerchio. Sì, no, forse è più esatto, più facile fare il fuoco lì. Però aspetta, noi poi dove siamo? Fuori dal cerchio? Qualcuno dentro e qualcuno fuori. E quelli fuori sono inutili. Anche fuori, spariamo. Quelli fuori sono inutili. Però dobbiamo far trovare un modo... ah, perché tu entri dall'entrata principale. Cioè, anche noi siamo sensibili al fuoco, era quello che intendevo. No, però noi stiamo aspettiamo fuori delle due che se passano infuocati li finiamo, forse. Vabbè, possiamo anche lasciare... un'apertura verso la chiesa. Eh no, perché dopo sì, esatto, rientrano e ci vanno dei fedeli. Eh no, perché dentro sono le ossa. Cosa dentro non possono entrare. Ah, lasciare un passaggio per noi. Cioè, no. Una volta che le ossa sono dentro, loro devono però uscire. Non passano attraverso il fuoco. Allora, tu come pensi di entrare con le ossa? Dalla finestra. Invece se chiudi il cerchio loro passano attraverso il fuoco. Però allora è che anche loro possono esatto, era quello che dicevo, anche loro. Ma non ci me... sono finestre, ci sono finestre? Eh sì, finestre, il campanile. In realtà io posso anche semplicemente entrare dopo di loro e uno di voi di noi fermi. Sta fuori. Ci sono finestre? Fuori. Sì. Sbariamo le finestre. Sbariamo le finestre, quello sì. Sbariamo le finestre e anche l'ingresso. Anche le finestre. I fedeli possono lavorare. Campanile. E anche l'ingresso al campanile lo sbariamo. Le finestre sbariamo tutto. Anche l'ingresso al campanile? Come vabbè, sbarrare l'ingresso al campanile? No, soprattutto nell'ora di riposo che campanile hai. Campanile. Anzi, tu entri forse dal campanile. Diciamo no, ma io posso anche entrare e noi. Chiediamo ai fedeli se ci danno una mano a posare due assi. Cioè, voi state fuori. Qualcuno sta dentro e qualcuno esatto. Sta fuori. Dove le. Diciamo il campanile? Come fa? No, scusami, come. Cioè, demoliamo il campanile. Beh, lascialo aperto. Dovranno uscire da quella più breve. Aspetta, tanto non possono uscire dal campanile. È collegato cioè alla chiesa. Stanno poi sul campanile. Aspettano il giorno. A noi va bene uguale. Anzi, ancora meglio. Avrà una porta dalla chiesa per entrare nel campanile. No, nel campanile. Sbaglio quella teoria, porta. Lì. Poi cioè, possono. Dal campanile avrà uno sbocco. Poi sopra. C'è una porta. È un unico. L'unica niente. Ah, è un tipo androne delle scale. È un'unica cosa. E però. Non hai capito cosa intendo io. Questa è la chiesa. In fondo c'è il campanile. Come entra il prete per andare dentro il campanile? C'è una porta. No, non c'è un ambiente unico. Quanto è alto il portone della chiesa? Cioè il campanile è così scala. Praticamente. C'è direttamente una scala. È come se fosse così il campanile. Sì. Fa parte del. Catta. Come se fosse così, quindi sì, il campanile. Sì. Non c'era la mappa da qualche parte, no? Dice che di usare la pianta dell'altra. Perché il problema è se loro camminano sulla parete potrebbero saltare il fuoco su dalla porta, dal portone. Quello è il meno, comunque si ritrovano nel cerchio di fuoco, che a noi va bene, li abbiamo circondati. Ah, perché era questa qua, però qua non c'è. Vedi, così, questa e è la porta. Quindi niente campanile, dai, ma sarà sopra. Ground floor. C'è un campanile. Sì, no. Sarà sopra. Cioè ci sarà una scaletta. Beh, perché questa è quella dell'altro villaggio. Sì. Però in questo è in più c'è il campanile. Ma no, vedi, vai, questo qua rope, sarà la corda del campanile. Posso andare a prendere l'olio? Il problema è che... Scusa, se la pianta è questa è ancora più facile perché l'ingresso è questo qui, quindi noi bruciamo sì, qua intorno. La porta, vedi, sono tre gradini, vanno su, le finestre le sbarriamo tutte. Sarà alta, super easy. Almeno... Allora, io entro dietro di loro e voi da fuori date fuoco al fuoco. Aspetta, ho un'idea. Quando entrano, prima, cioè... Ma intanto vado a incularmi le reliquie, ho il benestare tu. Sì. Nel senso... Dove stanno? O le ho messe io, no? O lo fai tu. Va bene. Vai a vedere dal prete e non ci sono più. Veramente? Ciao, tu dove le avevi messe? Vabbè, parliamo anche col padre per organizzarci. Prete le reliquie! Vi spieghiamo. Le ho messe in un posto. Le ho messe in un posto sicuro. Quello più grosso del mio PG. Vogliamo fare un trappolone ai vampiri. Alle progenie, esatto. Ah, ecco, cosa è successo? Avete visto qualcosa? Come andate? Ci saranno le reliquie. Praticamente sì, sì, attaccheranno stanotte la chiesa perché pensavano non ci siano le reliquie all'interno. E in effetti non ci saranno. E in effetti non ci saranno, se non potranno entrare. Quindi noi adesso le porteremmo fuori e appena arrivano le riporterei subito dentro. Vorrebbe dire condannare a morte certa a tutti. No, ci saranno. No, si finì, padre. No. Non morirà tutta la gente che potrebbe morire. No, padre, perché una volta portate dentro le reliquie loro saranno costretti a uscire. Crepano. Quello che il prete e a quel punto rimarranno intrappolato. Le reliquie loro non entreranno e non morirà nessuno. Certo, moriranno, ma rimarranno quelli fuori e a quel punto andranno a uccidere. Ma avrete per sempre il rischio di vampiri che entrano, che riescono a rubare. E soprattutto moriranno quelli fuori. Questa città cadrà. No, sono in un posto sicuro le reliquie. Sì, ma lo erano anche prima. Questa città cadrà. Ma da centinaia padre, di anni padre, che padre. Va avanti. Lei ha già visto cosa sono in grado di fare. Io non voglio fare questo. Però se mi costringe non capisco, io non vorrei farlo. Fare che cosa? Cosa sta dicendo il suo amico? Cioè, è un po' stanco. Ha presente che, povero, che mi ha detto di non tagliare i tendini a quel vecchio. Che io gli ho tagliati lo stesso comunque. Come gli ha tagliati lo stesso? Capita, è inciampato. Ma perché? Padre, metta i fedeli lontani da redimerti. Molto, molto. Però in questo momento posso aiutare? Sì, ma prima dobbiamo uccidere dei vampiri. Quindi siamo al sicuro dei vampiri? Padre, stanotte. No. Eh no, verranno qui perché non sanno che le reliquie ci sono. Ora. Ma lei quanto ci tiene i suoi tendini? Perché la domanda è una. Ci tengo molto, ma non vedo perfetto. Perché dovrei essere preoccupato. Si fidi di noi. Ci dia allora, abbiamo recuperato le reliquie? Non siamo persone affidabili? Magari alcune nostre. Comincio ad avere qualche dubbio. Magari alcune nostre, diciamo, azioni con il nostro modo di operare non seguirà, cioè non sarà perfetto, potrebbe essere criticabile, non siamo tutti paladini dall'armatura splendente, ognuno il suo, però siamo efficaci. Quindi, padre. E poi non vuole dare una lezione a quelle progenie? Oh, io voglio solo salvare Nasci la che vita dei poveri sì. fedeli. Non e pensa, si faccia male. Potrà salvare anche quella dei non fedeli e convincerli che è stato il dio del mattino a salvarli e così avere ancora più fedeli. Ma non mi interessa aumentare i fedeli, mi interessa proteggere quelli che ho già e non perderli, i miei poveri orfanelli. Beh, i fedeli saranno protetti perché comunque le reliquie entreranno subito con i vampiri. Usiamo il pretesto. Allora, la mia dose di civiltà è finita. Padre, si fidi. Aspetta. Padre, si fidi, se non mi dai le reliquie non funzionerà. Prima che torni il paladino, presto! Adesso è distratto. Oh, padre! Il suo amico non sta molto bene. Che cosa è successo? Padre, sta facendo? E sono tipo io così. Atanas non sempre opera nel modo più retto, ma in questo caso ha ragione. Non possiamo limitarci a proteggere solo pochi fedeli. Qui è in ballo la vita della gente della città, la gente di Vallachi, che è la sua gente, padre. Sì, ma adesso è al sicuro. No, non la gente. No, la gente di Vallachi non è al sicuro. Solo i fedeli. Sì. Dobbiamo. Non a meno possiamo che lei ogni notte non prenda dentro tutta la popolazione. Beh, cioè, la chiesa si riempie di tutti quelli che hanno bisogno di conforto e hanno paura nel passare. Come potrebbe andare a letto, padre, sapendo che ha condannato dei poveri innocenti alla morte? Quando avrebbe potuto invece salvarli. Vabbè, non vuole il nostro aiuto, andiamocene. Aspetta. Moriranno tutti. Ci se ne frega, cioè. Si tratta di usare l'ingegno. Ma te che secondo me noi l'abbiamo proposto, cioè, di no, fanculo, sì, ciao. Ciao padre. Sì, noi padre, siamo la vostra migliore speranza. Debelleremo questo male una volta per sempre. E come di grazia. Permetteremo a questi esseri immondi di entrare in chiesa, solo per un breve momento. Ma c'è Adrian stasera? Che culo! Ciao Adrian! Solo bel fumetto. Hai visto cartoni morti su Apri? E me le sono recuperate giusto perché così posso capire meglio tutti i meme che sì, ma sai che io ero a Milano e vendevano un sacco di CD. Non sto scherzando, in libreria. Va bene, ma è una follia questa. Ok, io ho il 10% di possibilità di non strippare. Ferma, ferma. Si fa gli autotiri, come il bustorino in fango. Perché? Non è una follia, padre. Una volta che loro entreranno, sarà Reis con la sua abilità a entrare 19, in chiesa. 19, ho strippato. A entrare in chiesa con le ossa, proteggendo tutti i fedeli all'interno. A quel punto i mostri dovranno per forza uscire dalla chiesa. Ma saranno sbalzati fuori dal potere divino contro il fuoco e dei paletti. Ma si troveranno nella nostra trappola di fuoco. Non si preoccupi, la organizzeremo noi, padre. Ormai è quasi buio, stanno per arrivare. È per questo che abbiamo bisogno di agire velocemente. Abbiamo bisogno del suo aiuto adesso. Non dopo. Io pensavo di mettere, perché ha detto che c'ha dei portoni, no? Di mettere tipo degli spuncioni dai portoni, così quando lui entra chiude i portoni dietro di sé. Do l'inspiration a mezzo. No. Cos'hai fatto? No ragazzi, ti do l'inspiration. È molto semplice, io tra un po' inizio a menarlo e a torturarlo. Ti do l'inspiration, ritira. No! Quando l'inspiration lo si dà a qualcuno, no, e basta, non mi do più darmi l'inspiration. La seconda volta. No, ma l'ha data lui. Arci, se mi no, io l'ho data. L'hai data tu. Io do l'inspiration a lui per convincere Erdizio. Io ho dato l'inspiration a lui così che lui evitasse. Però non ha funzionato. No, uno sporco lavoro, ma qualcuno deve fare. Padre, per la prego. Ci sono ancora i fedeli? Cioè, ce ne sono tanti che vedono la scena. Posto voi foste nell'ufficio. Sì, lontano da occhi indiscreti. Sarebbe stato più divertente. Già. Altrimenti andremo dai fedeli e diremo che il loro prete ha paura. E che la chiesa non è al sicuro. No, non capisco, pensate veramente di fermare delle bestie immonde e sovrumane con dei paletti del fuoco? Secondo me no, ma male che vada, le reliquie rientreranno dentro e quindi neanche secondo me ce la possiamo fare. Paletti, fuoco e il sacro potere del dio del mattino. Ma quello funziona e c'è già, perché lei vuole incontrare la sua divinità prima del tempo? Quando secondo sarà me sì, no, sì. Metti una M su buona, cioè cosa? Sei già caotico come il vaso? Sì, sono caotico come il vaso. Allora va bene, no, perché sei neutrale. C'era scritto neutrale sulla scheda, facevo un po' ridere. No. Ho iniziato come neutrale malvagio, poi ho trasformato in caotico. Sa che io devo cambiare allineamento tutto questo. Padre, la prego. Neutrale. La gente di padre, ci aiuti a non ucciderla. Morirà a frotte se lei non ci aiuta. Martin, penso che invece morirà a frotte se vi aiuto. Guardi, vabbè, adesso in questo momento siamo protetti, perché dovremmo... Non c'è problema, se non vuole il nostro aiuto usciamo, andiamo. Padre, io le do ragione, secondo me sono pazzi, ma tanto con il suo appoggio, senza il suo appoggio lo faranno comunque, quindi ci conviene dargli l'appoggio e farci il meno male possibile noi adesso, si fidi. Le sono nascoste, possono fare quello che vogliono, non le troveranno mai. Lo dice lei, sono testardi. Investigation! È che lei, padre, non ha abbastanza fantasia su quello che vogliono. Il problema è che lui è capace di dare fuoco all'intera chiesa pur di trovarlo. Per proteggere la chiesa. Esatto. Sì. Beh, a quel punto non sarebbe più per proteggere la chiesa. È così, però è così. Per proteggere le loro anime. Stando alla piantina, però i muri sono di pietra. Cazzo, è perfetto il piano. Allora sì, possiamo fare lungo il perimetro della chiesa addirittura. No, così non abbiamo tutto quell'olio. Però noi lo facciamo sotto le scale. Di legno. Vabbè, le scale di pietra, non è scale di pietra. Però prima attorno che c'era l'erba. Esatto. Per fare una buca nella... No, noi facciamo qua un cerchio di fuoco e nei che non portoni, potessero uscire. E dietro ai portoni ci mettiamo delle... Sì, se avessimo della pece sarebbe anche meglio. Padre, tutto bene? Beh, comunque sì, una roba così. Ha mangiato. Noi no, ma possiamo anche farlo radente alla pietra, tanto questa pietra. E poi sul portone volevamo metterci dei palettini. Sì, quello non così so. Poi li apriamo dall'interno e poi quando loro entrano li chiudiamo. Ma tutti noi abbiamo il Monster Hunter, il Monster Pack, vero? Ci sono un sacco di cose dentro. Tipo? Non ho capito i paletti come li volete mettere. Voglio mettere dei paletti sul portone. Magari ci sono dei paletti già fatti. In che senso sul portone? Sì, cos'è la crowbar? Che vengono verso l'interno della chiesa. Esatto, piedi porco. Che vengono verso. Poi c'è un martello, tre paletti. È il momento di tirarla fuori per convincere il Papa. Loro escono. Tre paletti. Io entro e mi chiudo un simbolo sacro, una fiasca di acqua santa. Tutte cose che ci possono manette. In teoria. Uno specchio di acciaio. È l'unico modo. Abbiamo tre paletti a testa. Steel mirror. Getti le reliquie e poi chiudi il portale. Una fiasca d'olio. Sì, non funzionerebbe. Hollywood. Perché non tutte le reliquie entrerebbero. Tre torce. La prossima volta potresti farlo, poi la rovino. No, quello di acqua santa già. No, lo so, non lo farai. Vero, per dire. È il mio trofeo quello. Dai, facciamolo. Cioè, se prete non vuole, sti cazzi. Prete si arrende, no? Bravo, prete. Ha paura di morire. Prima di stasera. Ha paura di morire. Ha più paura di noi che delle progenze. È il mio obiettivo. Ogni fedele. Sant'Ambra l'aiutami. Ogni fedele ti proteggerà con una torcia. Esatto, ogni fedele. Esatto. Bravo, padre. Fuoco. Adesso il suo intestino sarebbe sparso per la chiesa. Va bene, prepariamo l'olio. Vabbè, chiedi ai fedeli di preparare. I fedeli, no, i fedeli devono puntellare le finestre. Sì, è vero, sì. Chiedi ai fedeli. Sono solo sei finestre. Parte di tutti, sarà un lavoro della comunità. Vabbè, è vero, però sono solo sei finestre, ce la fanno. Pazzesco. E poi si nascondano in fondo alla chiesa. Cioè, si mettano in fondo alla chiesa. Va bene, noi saremo per la nostra salvezza. Dopodiché, mentre lui mette l'olio, noi facciamo i paletti. Noi facciamo i paletti. Le sì. Reliquie, padre. Sì. Sì, vado a prenderle. No, no. Veniamo con lei. No. Noi rimaniamo in buona fede. Non vogliamo sapere dove le ha nascoste. I miei compagni rimangono in buona fede. Io vengo con lei. Mica per fare i paletti andiamo a prendere le ossa. la legna. Non vogliamo sapere dove le ha nascoste. Tanto il piano funziona uguale. Se ce le, non ce le dà è uguale. E comunque quando io entro le reliquie saranno dentro. Ma io non lo so. No, non lo sai però. Vero, cazzo, sono che le vado a prendere. Ma non posso dirvelo. Certo, lei sarebbe, ognuno ha la propria sempre scelta. Povero prete, l'abbiamo torturato per e non posso dirvi ho io una reliquia. Comunque il prete mi ha appena chiesto se ha scelta. Certo che ha scelta, può scegliere. Vabbè, il libero arbitrio è stato donato dal dio del mattino a tutti gli uomini. Sta forzando a fare che scelta avrebbe. È morire. Fare quello che io ho chiesto, morire. Farlo no. Morendo, farlo non morendo. In realtà ha tre scelte. Farlo con dolore, farlo senza dolore o morire. O morire. Io sceglierei senza dolore. Va bene, lei. Va bene. Cioè, stiamo minacciando un prete per salvare il prete e la comunità. Sì. Vabbè, in realtà... Il paladino se n'è andato. In realtà è tutt'altro che malvagio. Per noi assurdo. Lo facciamo per il bene superiore. No, perché se tu fossi malvagio potresti dire vaffanculo, arrangiati e andartene via. Per assurdo tu sei anche troppo buono. Io sono un mostro che uccide altri mostri, io li voglio uccidere le progenie. Hai ragione, è vero. Se qualcuno si mette in mezzo potrei voler uccidere anche lui. Il prete sale per il campanile. Sì. È agilissimo. Cioè a scatto. Anche sale già là. E arriva ad una campana e appunto c'è un... Al posto del battacchio c'è questa cosa che ha una... Quindi se suonavamo la campana spaccavamo le cose. Quella campana non è collegata a nessuna corda. Okay. E c'è un vano in questa specie di battacchio e dentro ci sono il sacchetto. Sì, non l'avremmo mai trovata, ha ragione. C'è qualcosa per chiudere? No, perché se la scala che va diretta non c'è nessuna botola. O c'è una botola? La scala a chiocciola e l'androne, cioè mezzo vuoto. Va bene, abbiamo le reliquie e... Grazie padre. Sì, le puoi prendere tu. Le progenie sono arrivate. Il prete è morto. Spero veramente che abbiate ragione. Certo. Finirà per il meglio. Pregherò intensamente. Ti do le reliquie. Grazie. Ai miei orfanelli. E il sacchetto bene, le chiudo bene. Gli orfanelli. Non falliremo, padre. Non falliremo. E se falliremo, i suoi orfanelli incontreranno i propri genitori. Non credo che fosse la frase giusta, però. È quello che hanno sempre desiderato. Mi prego, però. Perché mi... privarmi? Non dirlo ai poveri piccoli. Ma quello che vuoi probabilmente vedere i tuoi genitori. Sì, sì, sì. In fondo al cuore è quello che voglio. Avere una famiglia. Se non muoiono, ma diventano vampiri a loro volta. Meglio. Avranno una nuova famiglia. Una nuova famiglia. E una vita illimitata. Anche se diventare bambini, cioè vampiri da bambini. Bambini da vampiri. È un po' una fregatura, perché. Beh, in realtà rimani bambino per sempre. Appunto. Bravo. Esattamente. Ma è bello, dottor Luke, se non vuole crescere. No. Ma è un'età migliore tra i 20 e i 30 anni. No. Scusami, ma... A 13. No, ma a 13 non è una cosa fisica, è perché lui mentalmente, no. Cioè mentalmente a 13 anni, dai, no? Testa. Allora, mettiamo i paletti dietro la porta. Non so se si può sulla porta. Cioè che quando chiudi la porta loro puoi spingere che la porta. Master mi faccia notare che visto che io entro e chiudo la porta, loro mi schiacceranno. Vabbè, ti sposti, ti abbassi. Ma devi rimanere dentro? Ma no, perché devi rimanere dentro? Perché ho le reliquie. Beh, lanci il sacco con le reliquie. Ma perché vogliamo chiudere la porta se c'è il fuoco fuori? Perché intanto magari si schiantano sui paletti. Sì, ma se non la chiudo io, sto fuori con te, la chiudo, sì, io. Vabbè, scusa, ma metti dentro le reliquie ed esci. Sì, poi rimango tra la porta. Metti dentro tutte le reliquie, sì, però e poi rimango tra la porta e il fuoco. Lo accendiamo un istante dopo che tu sei passato. Tanto abbiamo il tempo in cui vabbè, loro facciamo sfondano così le reliquie. Allora, tu chiudi, io entro. Chiudete la porta. Intanto chiudete vabbè, la porta. Si può fare questa cosa di mettere i paletti, le picche. Ma tu cosa fai dopo? Noi sì, combattiamo fuori 4 contro 3. E io da vedo dentro. Perché non come combatti fare da dentro? Se, ah, prima o poi sfondano la porta. Sì. Quindi no, tu riesci a uscire, però dopo c'è il fuoco, tu devi oltrepassare il fuoco. Beh, Giulio deve andare a rubare loro. Se loro hanno oltrepassato il fuoco, sono morti. Magari. Ne sei convinto? Grazie, vediamo. Da due noi ne abbiamo una testa. Dipende a quanta superficie volete dare. No, non tanto, però. Vabbè, no, se ho tempo di andare a prendere un barile d'olio, no, ci vado. Dai, vado a prendere. Tanto il negozio è chiuso, vengo anch'io. Con le reliquie, magari lasciale qui a noi le reliquie. Che ne volete? Se ti succede qualcosa, siete fottuti uguale. I paletti che. Scusa, fate accompagnare dal prete, che è benevolo ad aiutarci. Sì. E dare fuoco qua. Sì. Però dicevi un cerchio tu. Cioè io entro, lui si chiude la porta, c'è il portone. Barriera. No, ma è un semicerchio qua. No, è solo una barriera, però non puoi un cerchio dentro, fuori, esatto, dove puoi rimanere dentro come dicevi prima. Quando chiudete il portone voi dove siete? Io sono dentro. Lui è entrato e io chiudo da fuori e sono fuori tra il fuoco e la porta. Scusa, se noi facciamo una cosa tipo che così, se mi sfugge a questo punto la funzione del fuoco in tutto questo. Beh, dopo riaprire. Quando invece usciranno per fare un'entrata più scenica. No, ascolta me, se invece il fuoco lo facciamo tipo così. Infatti sarà. Così dopo loro rimangono incastrate dentro questo cerchio di fuoco. L'idea era quella. Sì, sì, sì, l'idea era quella. Sì, sì, hai di capito? Fare un circolino così. Mm-hmm. Così loro, oltre che oltrepassarlo, rimangono incastrati dentro. Quando oltrepasseranno la porta, saranno dentro al cerchio di fuoco. Comunque dovrebbero oltrepassare il fuoco e saranno comunque dentro al cerchio di fuoco. Noi saremo dentro o fuori il cerchio? E questa è la domanda. In teoria dentro. O bello, fuori. Perfetto, così. Non so. Così neanche noi possiamo scappare dal fuoco e ci menano malamente. L'idea è quella di uccidere qualcuno comunque fuori, qualcuno dentro. Ecco. Io sono dentro alla chiesa. C'è 4 contro 2. Qualcuno fuori per forza perché bisogna dar fuoco. Quindi uno sarete tutti fuori. No, non fuori dalla chiesa. No, fuori dal cerchio di fuoco, dice. Ma ragazzi, perché non facciamo così che intrappoliamo qui sulle scale? Sì, sì, sì, sì. Ci vuole un po' di pece. Ma devi dar fuoco anche davanti al portone. Però se facevi invece. Perché sennò loro salgono su. Se no do fuoco a. E poi gli cereremo. Sì, sì, sì, va bene. Al muro di pietra la facciamo. Io dicevo di farlo proprio qui lungo. Proprio attaccato no, alla vabbè, parete, allora, perché sennò loro salgono sulla parete. Sì, sì, ma se lui butta l'olio sulla, cammina sulle pareti, butto l'olio sulla parete sui muri qua. Okay, mi raccomando, perché sennò loro sale sulla parete. E poi, e poi dopo, solo una volta che sono stati scaraventati. Male che vada, scappano. E poi, comunque, una volta che loro sono scaraventati fuori, puoi chiudere con l'olio il cerchio. Sì, sì, sì. Era voi potete, voi potete, mentre lui chiude la porta. No, voi state alcuni fuori. Alcuni stanno dentro, alcuni stanno fuori. Potete stare anche tutti fuori e mentre lui chiude la porta voi date fuoco, così tu hai anche il tempo di uscire. No, fuori dalla chiesa, stiamo tutti fuori dalla chiesa a parte te che devi portare. Ma potete anche stare fuori dal fuoco voi, dico. Però poi come le combattiamo? Cioè, ah, io per forza devo stare fuori, in effetti. Ma tutti state, secondo tutti me, fuori. Perché se io sto dentro ci diverrà qualche dubbio. State tutti fuori, raga. Tutti fuori dal fuoco. Sì, sì, sì. Eh sì, perché se, cioè, se stiamo dentro in due e ci attaccano in quattro, moriamo in due turni. Sì, sì, sì, state tutti fuori dal fuoco. Se vogliono combattervi dovranno attraversare il fuoco. Prima o poi farà giorno. Prima o poi si spegnerà il fuoco, tra parentesi. Non brucerà per sempre. È vero, poi si farà giorno. Esatto. Gli butti legna. Butti legna. Olio. Beh, noi comunque se sono lì, forse delle spadate riusciamo a dargli le attraversare. Vabbè, vediamo, questo dai, vediamo come va. Però hai ragione, continuiamo ad alimentare il fuoco e magari arriva giorno. Allora, noi siamo fuori, ci saranno delle casette. Sarebbe figo. E tipo la tortura la chiesa. Fino al mattino. Osservate la chiesa intanto che fa buio. Sì. Il tuo pipistrello... Dovresti. Tu puoi comunicare telepaticamente? Sì. Lo tieni tipo dentro? Sì, va bene. In modo che ti comunichi quando arrivano i vampiri. Va bene. Quindi, ricapitolando, le finestre sono sbarrate? Mm-hmm. Sì o no? Sì. Ok, bene, controlliamo. Sono. Eh no, vabbè, l'hanno fatto loro, sai, magari l'ha fatto un migherino che ha pensato male. Controlli e hanno fatto. Vabbè, in tutto questo andiamo a prendere l'olio. Sì, andiamo a prendere l'olio. Vuoi farci fare la scena o lo prendiamo a sti cazzi? Arrivate, trovate la bottega. Io intanto con Vest, magari con qualche fedele, facciamo mano paletti, magica. Sì, noi sistemiamo. Facciamo i paletti. No. E poi sai cosa facciamo? Accatastiamo della legna intorno alla chiesa. Un canter, per alimentare dopo il fuoco. Sì, la nascondiamo. Tu lo lanci. Sì, intorno alla chiesa. Sì, con gli attrezzi. Facciamo aiutare da Milivoji e gli altri. Oppure se è chiusa dall'interno ci staremo. Andiamo qua a prendere la legna. Cazzo di coso, lo tiro su. Staremo qui dietro noi. Sì, esatto, esatto. No, stiamo parlando tra di noi intanto. Qui? Noi pensavamo, nel frattempo, noi facciamo... Ho fatto 16. No, ma finisci una scena, perché sennò... Tipo, noi accatastiamo tipo la legna qua e ci mettiamo dietro la cosa di legno. Esatto. Ok, silenziosi, andiamo a prendere i barili. Ok, silenzioso, io non sono silenzioso. Il più silenzioso possibile. Vabbè, non ti mettere a urlare. Entrate nel negozio, ci sono delle scale. Perché non so se mi bruciamo le banche dei fedeli. Che legna vuoi trovare qui? Non sentite la legna parlare, rumori, punto di domanda. Non abbiamo ce ne serve tante, però se vogliamo arrivare la mattina. Vabbè, non arriviamo mattina. Se continui ad alimentare il fuoco si crea quella fase di stallo. Dipende se adesso prendo due botti di olio, se una glielo buttiamo dentro nel cerchio. Sì, prendono fuoco anche loro, hai ragione. Non avevo pensato, certo. Sì, prendetele quanto più potete. Un altro di 20, uno di due. 20. Boh! Sprecato così. No, quando si tratta di bruciare è infallibile. Lui ha bisogno di. Allora. No, secondo me 20 c'è proprio lo stronzo lì che fa. E chi c'è nella mia povertà? E fu così che l'uccisione della giornata. Vabbè, lo ammazzo, ti devo dire. Io strategicamente non sono venuto. Dal piano di sopra una legna. Una, come se fosse un canto, una legna del Kenya. Un canto rituale e delle invocazioni già perché vuole ucciderli, cariche e oscure. È per caso in celestiale? No, allora non lo so. È in comune. È per caso in abissale? No, è per caso. Sentite ripetere caso in elfico? È in comune. Ok. Sentite ripetere il nome di una certa Lady Fiona Wachter, quella verde con le orecchiette strane. Sti cazzi, Lady Fiona. Shrek non viene mai nominato. Vabbè, adesso non abbiamo tempo, ma me lo segno mentalmente. Te ne prega, via, via, via. Trovate il barile d'olio. Ci fossero dei carrettini, tipo delle carrioline, potremmo prenderne due o tre. E notate che in questo posto i prezzi sono esorbitanti. Stavo per lasciargli qualcosa, ma quanto viene un barile d'olio? Non saprei quanto normalmente viene, però vanno dal doppio al quintuplo del normale. Vabbè, è la sua giornata fortunata, ne ha venduti tre. C'è una carriolina qualcosa? No, non c'è una carriolina. Allora ne prendiamo due. Incarico quelli che riesco. Va bene. Dipende quanto sono pesanti, magari due riesci. Che altro l'ingombro? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Già è tanto che ce ne fa due per attare due. Scusa, due li tiene così e il terzo ci cammina sopra. Sì. Io lo posso fare, sì, cammino sopra il bello. No, meglio di no. Non voglio rischiare di tirare. No, che magari si apre. Avete due barili. Ok. Prende di più. Quindi? Quanto bene non possiamo. Beh, uno per fare il cerchio e l'altro per tirarglielo dentro, sì, a mo' di bomba. Vabbè, son barili, cioè non sono barilotti, sono barili. Cioè, ce n'è d'olio, mezzo per fare il cerchio. Ok, facciamo il cerchiolino e poi ci appostiamo fuori dall'arco. Allora, noi nel frattempo, allora, te lo dico per bene, oltre ad aver fatto i paletti sul portone, abbiamo anche accatastato della legna abbastanza nascosta ai lati della chiesa. Per alimentare ci serve il fuoco. E ci nascondiamo dietro. C'è un piano superiore della chiesa? No. Non c'è neanche il piano sotto, perché vuoi fare tipo olio bollente che cade. Volevo lanciare il secondo barile dal tetto. Dai, vabbè, posso farlo io forse. Però, cioè, volendo tu ti puoi appostare sul tetto, però se puoi devo chiudere la porta. Ok, no, la porta, vabbè, beh, scusami, io chiudo la porta, lui da fuoco. Lui in realtà, con le reliquie, tu lanci in realtà, se mi portate, se riuscite a portarmi il barile sul tetto, io li aspetto dal tetto. Da dove entri? Non entro, faccio scendere il pipistrello con le reliquie. E io butto il pipistrello. Non hanno morto. Quindi? Non e quindi non posso entrare. E c'è anche lui comunque nel fuoco. Ah, quindi tutte queste. Scusami, adesso da Damasio devi descrivere cosa è successo. Però. Adesso esce il fuoco. Non è mai entrato fuori nella chiesa. Cosa se hai chiuso la porta con i paletti? Le reliquie non stanno insieme, chi cazzo sono? Fatti i cazzi tuoi. Pipistrello tiene fuori, ma noi sappiamo che è un non morto. No, sta dentro. I nostri personaggi sono consapevoli che è un non morto. Sembra un non morto. È molto messo male. Beh, sarà un problema di Sado, decidere lui. No, ho capito, però in teoria i nostri personaggi potrebbero intuire che c'è qualcosa che non va nelle reliquie. Se vengono sparati nell'entrata più vicina, viene sparato contro la porta anche lui. Sì, però hai notato che in questo momento... Non chiudiamo la porta a sto punto, scusa. In questo momento però il pipistrello è dentro. C'è qualcosa che non ti torna. Ma io sono fuori. Quando lui va dentro, lui viene sparato contro la porta. L'ha capito. Nel fuoco. Ora noi siamo tutti dentro una chiesa. No, io sono fuori. Sono dentro adesso, però in questi momenti, in queste ore... Non hai visto pipistrello? Lui ha detto di sì, era dentro. L'hai visto adesso che ce l'ho messo? Prima. Però forse ma prima non hai mai visto. Non lo so. Non so dove fosse. Pipistrello lo tengo io nel tipo nel cappotto. Ok. Ora c'è. Ma loro non l'hanno visto. Va bene. Bene. Allora, vuoi salire sul tetto? Iniziamo il piano. Perché se vuoi salire mal che vada, daremo fuoco alla chiesa con tutti i fedeli. Quanto è alto? E il sal e i vampiri dentro. Quanto è alto il tetto della chiesa? È l'unica uscita con degli spuncioni. Quanto è alto il tetto della chiesa? Circa, se il piano è mettere un po' d'olio qua. Mi ricorda che cazzo era quello che bruciava l'edificio. Gobbo di Notre Dame. Cioè tu vuoi salire sul tetto della chiesa, ma poi come scendi in fretta? Che cazzo io non so. La morte, ma cazzo lui è andato che gli dà un fuoco, Gobbo di Notre Dame. Ah no. Qualcuno deve portare dentro le reliquie. Vabbè. Chi si arrampica sopra? No. Chiediamo al prete se si mette sul tetto della chiesa per tirare il barile. Ma non importa, tanto no, ma chi se ne frega. Era però. Vabbè, non importa. Era figo, so, effettivamente. No, al massimo lo siamo con la carrucola e quello sarebbe figo. Però vai, aspettatemi il piano. No, noi siamo fuori da qualche parte nascosti in una casa, in un vicolino vicino. E il suo pipistrello è dentro. Il pipistrello è dentro. Ma era figo se si metteva sul tetto. Tutti quanti nello stesso punto. Tutti insieme. Però no, aspetta. Sarebbe utile una cosa. Far perdere un po' di tempo ai vampiri quando entrano nella chiesa. Devono sfondare la porta, quello perdono tempo. No, la porta non la va porta sfondata, è aperta. Ma se li fai entrare li lasci gozzovigliare. Io sto dentro la chiesa. Io sto dentro la chiesa. No, ragazzi, facciamo così. Tu dici sì. Mangiano le persone, il tuo pipistrello non dipende. Io sto dentro la chiesa e guadagno un po' di tempo. Non vi preoccupate con me. No, devi stare fuori. No. Ecco, questo, mangia questo. Esatto, poi anche Massimo l'invito. Tu apri la porta e gli inviti dentro. Venite, amici. Bello, amici entrate. Vabbè, tu cosa fai? Ditemi sono fuori. Chi è che porta le reliquie? Io. Lui. Ok. Tu vai, stai entrando. Uno di voi due chiude la porta. Prima chiude la porta e poi dà fuoco al coso. È importante. Io chiudo e poi lui dà fuoco. Cioè e poi il barile può essere anche qua dentro, che poi lo facciamo ruzzolare quell'altro. Sì? quello sì, che non abbiamo usato per me. Nella chiesa. Dentro la chiesa, no? Il barile dentro, barile... quello ancora pieno. Il barile abbiamo usato per, no, tiro fuori, per mettere l'olio. E quell'altro, perché poi lo fai dentro, rozzolare verso loro che sono bloccati nel cerchio di fuoco. Cioè lui, quando loro apriranno quella porta per uscire, troveranno il fuoco, lui prende il barile. Sì, ma in questo modo prende fuoco anche l'interno delle... Vabbè, no, delle due il contrario. Come fa a prendere fuoco? Delle due il contrario. Vabbè, cioè, lui fuori, è il barbaro, non si deve no, avevo capito. No, no, va bene. Sì, sì, ci sta. Dove sono? Giulio sta dentro. Sono fuori. Noi due fuori, loro due dentro. Tu sei fuori. Noi ci mettiamo là, nascosto, con le reliquie opposti. Ci mettiamo i due angoli opposti, io te. Cioè uno qua e uno là. Cioè, una in tasca e una nel sacchetto. Sì, perché così arriviamo e chiudiamo i portoni. Ok. Io. Scusa, il pipistrello invece. È dentro. Stiamo insieme. Eh sì, se ci arriverà addosso, almeno siamo in due. Ma. Butter. Ha un nome. Racebutt. C'è scritto. C'è scritto. Sì, ma l'hai scritto tu. C'è scritto. Esatto. Il tuo pipistrello sta con noi. Atanas, dove no, sei? Sta dentro. E io sono... dobbiamo avere un modo di avvisarci. Se al loro... centro della navata, state dentro, diciamo, ad aspettare le progenie. Con il vecchietto che faceva le bare. Il vecchietto, ragazzi. Ah, no, no. Il, quello che faceva le bare, non il vecchino. Bon. Esatto. E gli dico, hai un'ultima parte da giocare in questa storia. Cosa gli fai fare? Chi lo sa, ma io devo saperlo. Ho una mano dentro. E quello... Entrate, sono tutti qui dentro. La mano nel culo. oppure sarà via sul tetto e gli metti. Allora, il dove io, Garrosh e Race siamo dietro una cassetta, una cassa di legno, cioè una catassa di legno che abbiamo ammassato su questo lato. D'accordo? Tutti d'accordo? Boh, sì. Una catasta di legno, perché metti che serva roba da cui dare fuoco. Da cui possiamo vedere avanzare i vampiri, forse. Possiamo vedere però solo qua, poi se entrano me lo dice il pipistrello. Scusa, esatto. Ma il pipistrello non puoi metterlo in alto, in alto, che vola. Sta volando. Così dentro ci avvisa prima. Ah, come dentro la chiesa? No, è un pipistrello, non è un falco, non vede se uno cammina per strada. Ah, ok. Cioè, non, per definizione non vede, quindi. Ah, ok. Cominciano ad arrivare un po' di fedeli. Se avessi preso un gufo, secondo questo il pistello creperà. Lasciate perché... detto qualcosa di storia. Adesso probabilmente con le reliquie. Io farò un gufo. No, tutto normale. Abbiate fede. Abbiate fede. Se parli da solo. No, cioè diciamo al prete, cioè lo sa il prete dovrà reggere il gioco. Ci sono io dentro, no, apposta perché il prete, diciamo, regga il gioco. Diciamo al prete che deve dire che ha una sua idea. Prete, no, dica che ha una sua idea. No, che no, oggi sarà mostrata la potenza del dio del mattino. A ogni fedele viene data una torcia. Ok. Per il dio del mattino. Per il dio del mattino. Di fedele. Sì, ok, avvisate i fedeli di stare lontani da quei barili. È importante che i fedeli si diano fuoco. Non stare presi. E che si lancino contro... Vabbè, sarà Giulio a gestire quella figata. Diamo una boccettina di olio ad ognuno che se la metta un po' in testa. Sovrintendente Denethor. Bellissimo sarebbe. Ti immagini? Tutti i fedeli, oh, infuocati. Che figata sarebbe. Quindi noi dobbiamo neanche combattere, perché li uccidono loro modi kamikaze. Esatto, invece noi, in realtà noi stiamo facendo interesse. Ci puoi dare l'olio dalle finestre. Non la faremo questa cosa, ma un ispiration per questa idea. Per l'idea, l'intenzione. Cazzo, fuoco alla chiesa. No, no, i fedeli sono. In realtà andiamo fuoco alla chiesa alla fine. Beh, quello sarebbe tutto obbligato. Brucerà. Perché Giulia è contenta. Se le ossa stanno fuori, proteggono fuori. E quindi devono stare dentro. E a quel punto i fedeli sono l'esca. E ma noi poi pochi moriranno per salvarne tanti. Tu scherzi, ma io stavo pensando in curarmi proprio tutte le liquide. Beh, dopo magari. Sono una bella protezione. Vabbè, dopo. Dalle sue conoscenze. Vado da strada e faccio che le reliquie, quando sono nella chiesa, hanno l'effetto del. E fuori dalla chiesa non serve un cazzo. Esatto. E devono esserci tutte. Sì. Vabbè, lo fisicamente... dico per completezza di forma. A un certo punto esserci. A un certo punto io ho pensato di prendere un femore, appuntirlo e usare come paletto. Bellissimo. Scusa, io beh, dal punto di vista. Guardate che sia dentro gioco, la chiesa. Si apre fuori. Io sto portando tutte le lì. Spero che tu ci abbia messo tutte le reliquie. Lui fisicamente io sto portando tutte le reliquie. Poi alcune qui, alcune là, ma tutte con lui. Sono un po' dislocate, però io trasporto tutte le reliquie. Quindi se lui porta dentro le reliquie, ma poi dopo lui esce... I vampiri rientrano. Fighissimo. Adesso sono dentro, adesso sono fuori, adesso... Beh, però possiamo fare il giochino delle porte dentro. Vai, dai, dai, facciamolo. È vero. Capire, dai. Una volta che loro sfondano, riescono. Mezz'ora di fuoco si spegne. La cosa più bella di loro rientrano, dai, di nuovo, ragazzi, lo rifacciamo. La cosa più bella di tutto questo è che non era previsto sicuramente nell'avventura. Assolutamente no, infatti il cazzo sta pensando come rovinarci. Il cazzo è panicato di brutto. No, stavo cercando una cosa. Chissà come prevedeva l'avventura che facesse. Non sono in Italia. Non sono in Italia. Luz, no, io sei? Sabato. Cioè, queste scuse per non giocare a calcetto. Te l'ho detto? Ah, è vero. Torni, poi giocare a calcetto e detto. Parto il sabato. A che ora parti? Da pranzo, ora di pranzo. Tipo verso l'una. Giochiamo prima. No, volevo leggere una cosa. Quando muore tutta la... Te l'ho detto, Bez. Io non sono in Italia. Quando muore tutto il party, sta leggendo il master. Beh, l'AS sarà vivo. L'AS e Ash dove sono? In teoria la locanda con Irina. Ah, è vero. Nessuno si è detto lui. In realtà Arci era con noi prima. Vabbè, sarà andato a locanda. È andato a rassicurare l'AS. E a fare arrampicata. I due nani. È andato a fare arrampicata con l'AS. Che schifo. Dai, catta improvvisa, non sarà mai prevista. C'era una cosina carina che vi volevo leggere. Però allora gli avventurieri nella chiesa, appunto, vedi, comincia ad arrivare al flusso di gente, ci sono delle famigliole felici con i loro felici. Ma tipo quanta gente? Non tristi. Ma ci staranno... Non siete abbastanza felici? Una sessantina. È vero, tra l'altro. In ogni caso i fedeli saranno felici. 60 persone. Per legge. Perché appunto che bello, ci ammazza un posto che ha sempre rassicurato. Sì, posso dire una cosa, prima il prete non era felice, un sacco di gente che abbiamo incontrato. Sì, infatti, dopo averci incontrato, soprattutto dopo averci incontrato qua, soprattutto sentite adesso che sono in un luogo, diciamo, al riparo da occhi indiscreti, appunto, gente che si racconta come dei propri cari sono stati ingiustamente messi alla gogna perché sostanzialmente il barone pazzo, e una nonnina è lì che dice: il mio povero figlio è stato malmenato dalle guardie solo perché non ha sorriso durante il festival delle teste d'orso, delle teste di lupo, e cose così. E c'è anche il vostro amico Milivoji che appunto attende insieme agli altri alla funzione religiosa, e quando entra: oh, ciao Milly, appunto, si è portato i fratellini. Sì, ci sono i fratellini. Come stanno? Venite bambini, li porto dalla parte opposta della chiesa. Cioè, lui la merda comunque. No, per dire. Ad ognuno viene dato una torcia, un candelabro, insomma, per fare, per, diciamo, fare il più possibile luce nell'ambiente. E Lucian, padre Lucian, inizia la funzione religiosa. Nel frattempo voi siete lì fuori. Mi sono addormentato. Esatto. Che infatti sta venendo buio. Quanto ci vedete voi al buio? Niente. Beh, il nano un po' ci vede. Beh, tra un po' vedremo tutti. Vediamo fuoco. Adesso dico. Vabbè, da nano... Ma dipende, se c'è un po' di luna ci vediamo un po' tutti. È buio pesto. Il nano ci vede. Vabbè, è sempre nuvoloso poi. Io ci vedo, voi no. Io sono dentro la chiesa, quindi ci vedo. Vabbè, io ci vedo. In realtà non sto guardando quello che guarda loro, io sto guardando quello che sta guardando il pipistrello. Quindi tu ci cieco. Vedi? No, no, è vero. Quindi sì, voi due non ci vedete. O vi fidate della mia parola ogni tanto? No, ma io sto davvero guardando, cioè sto annusando e ascoltando. Beh, quando si apriranno le porte della chiesa, Vabbè, le porte sono aperte. Il fascio di luce. Le porte sono aperte perché la porta rimane. Le porte della chiesa rimangono aperte. Beh, una volta che entrano gli ultimi fedeli, le chiudono anche perché fa un po' freddo. Ah, ok, quindi sono chiuse in questo momento. Sì, sono chiuse. Non vedi un cazzo. Vabbè, dimmi tu cosa devo vedere. Cosa vedo i tuoi occhi da lana? Vabbè, io sto vigile e attento. E... quanto vedi nel buio? Non lo so, non ci ho mai guardato. Sarà 60 feet. Sarà 18 metri? Taccio un occhio. Letteralmente. Vabbè, intanto vai avanti. Ah, niente, entro la parte lì, vabbè, guarda, adesso rimetto la pianta della chiesa. Beh, una pizza che diceva mio povero figlio era fatto male, questo barone pazzo, una vecchia. Vabbè, ma noi sai queste cose di giorni. Mi avrei detto, il barone ha fatto bene, non sorrideva abbastanza. Contestare il nostro amico. Il barone è nostro amico. Contestare. Immagini, non stai sorridendo. Vogliamo aprire un bel sorriso su quella faccia. Cioè, aiutami, però dovrebbe essere 60 piedi se c'è una lieve luce. E nell'oscurità. Come se ci fosse qualcosa. No. Dim light. Esatto. Che devo dire? Luce fiocca. Fiocca. Vedo come si può essere luce fiocca. Sì. Nell'oscurità totale. 60 piedi. Beh, siamo vicini all'ingresso. Nell'oscurità non posso vedere. Vabbè, ma raga, in realtà quello che dobbiamo fare è ascoltare, perché sentiremo loro che busseranno. Comunque nell'oscurità totale non vedi colore. Perception. Lo posso fare comunque con l'ascoltare. Sì. Comunque farlo con l'ascoltare. Certo. Perception, per perfezione vuol dire tutto. E non so se mi spiego. Che è un 19. Vez. È un 19. Fidati, guardo io. È un 19. No, ti devi fidare, io vedo, ho fatto 6, quindi ti fidi di io ascolto. Tipo, stai zitto che devo ascoltare. Tipo, non vedo niente, ma non senti che uno sta respirando di fianco a noi? No, non c'è niente. No, scusate. No, 19. Senti tre cose. Oh, non vedo un cazzo. Io sto bruciando. Oh mio Dio, brucio. Oh mio Dio, perché ci stai uccidendo dentro la chiesa? Oddio, c'è un vampiro. Vai, dimmi. La prima è la preghiera di Padre Lucian, che con la sua voce tonante dice: sono attento e vigile, non sento nulla. Siamo qui riuniti in questo luogo sacro per innalzare le nostre lodi al Signore del Mattino. E grazie alla sua immensa forza, noi supereremo indenni la notte. Ride veramente. Quando fa così, mi giro verso di lui e faccio. La seconda cosa che ascolti è Arci che dice: dottor Strada, dottor Strada. Del rumore di passi venire dal tetto della chiesa. La terza cosa che senti subito dopo, insieme alle parole: Signore del Mattino, se ci sei, dacci un segno. Comincia a sentire un sacco di battiti d'ali, mentre centinaia e centinaia di pipistrelli cominciano a riempire il cielo sopra la chiesa. Siamo fottuti. E appunto convergono sopra il tetto e comincia a vedere qualche pipistrello, un pipistrello in più rispetto a quello, però è un pipistrello. La mia vero. Dentro, lui dentro. Vede, oltre a quel tuo c'è un altro, poi un altro ancora, poi altri due, poi altri tre. A un certo punto dal campanile scende questo sciame di pipistrelli gigantesco. Batman. La gente va nel panico. Tirate iniziativa. Com'è se la gente prova a uscire dalla chiesa e rimane impalata? E si incastra con le torce e si dà anche fuoco. Classico grande numero 6 5 8 Vabbè, cominciano i vampiri, ok? Dai, Renzi. Tu quanto hai fatto? 22. Boom. Bravo. Vabbè, lui ha il compito di portare le reliquie, giusto? Che tu dovrai guidarmi. Sì, non ho visto niente, tu hai sentito tutto. 6 8 5 8 Garrosh. Oddio. Ok, e in pochi secondi la chiesa si riempie di questo sciame di pipistrelli. Per la precisione sono 4 sciami di pipistrelli. Ma i passi su... La gente va completamente nel panico e cominciano a correre verso l'uscita. Aspetta, non sono ancora i vampiri questi. No, vabbè, sono dei normalissimi pipistrelli. Cazzo, ma li hai visti i paletti? La gente va nel panico e comincia a correre. Si ero prima io della gente. È che non sono le progenie queste. Chi se ne frega, stavo prima io della gente però. Sì, tu, i tuoi riflessi ti permettono di agire su. Allora io sono in una cassa di legno. Quant'è la tua velocità? Come in una cassa di legno? No, no, di fianco. Dietro a una, una catasta di legno. È 30 piedi, uso però entrambe le azioni, muovo due volte. Fai conto che siamo qui, fa così, non è tanto. Capito? Cioè. Ma non è torce. Cioè noi eravamo qua, no, noi eravamo qua a guardare, sì, esatto. Da, però da i fedeli hanno le torce, sì. Beh, cosa, fiducia. E cosa ci devono fare con le torce? Boh, scacciare tipo i pipistrelli, sì, so. Qualcuno ci prova in mano così tipo dai, vai, 25 30, ok, più altri 30, più altri 30 arrivi, spalanchi le porte, sì. E arrivi. No, lì davanti, tanto ho le reliquie addosso, quindi in teoria le ho portate dentro. So che se i pipistrelli sono normali, che cazzo facciamo? Le seghe? Ho capito, apri, per non fare uscire la porta. Almeno escono. Però, almeno non si impalano, hai ragione. Cioè, almeno salvano le persone. Persone. Sì. È un macello se escono. È per quello. Che vabbè, le persone impalano. Escono, ma non stanno lì da dove noi accenderemo il fuoco, se ne vanno. Hai salvato delle persone innocenti. Hai preso tanti schiaffi di non sprecarli questa volta. Aspetta, però i pipistrelli escono. Allora, i pipistrelli tormentano tutti, sia i presenti all'interno, sia quelli che stanno uscendo. Meno quelli che stanno uscendo. Però non hanno reazioni violente del voler uscire. No, i pipistrelli... sono lì che cosa fanno? Mordono, sì, stanno. Sembrano pipistrelli normali, insomma. Sono normalissimi pipistrelli che mordono e si attaccano nei capelli delle signore che urlano. Questa è una leggenda. Ma si attacca a me. E i tizi che escono. Scusa, ci tengo molto. Il prete. Il prete l'istorico che dice. Sì, continua a pregare intanto col suo pastorale meno fendenti, cercando di colpire. Mi rivolgi? Cioè. Sì, è lì che ha preso una pala e con le sue braccia nel boot. E ha lasciato cadere la torcia che ha dato fuoco a metà della chiesa. A proposito, i tizi che hai sbagliato qualcosa. Colpiscono per sbaglio con una torcia. Fumble! Hai fatto di più? Scivolano e si fa male. Cadono con le loro torce sul vostro olio. Oh, comunque cercano. Quanto è imbarazzante. Che fa sempre dei Sceo avesse detto per una volta la cosa giusta. Nessuno l'ha cagato. Cioè, è di sbarrare il cazzo di campanile. Non si poteva sbarrare. Non si poteva sbarrare. Anche io quando sono salito ho chiesto se potevo sbarrarlo. Non è che. No, lui l'ha chiesto. Cioè, se no avremmo fatto. Io ci sono salito. Non si lui ha chiesto anche se c'era una botola. Non si poteva sbarrare. Ha chiesto se c'era una botola. Cioè, tutto aperto diretto. C'è una scala. Cioè, come se fosse qua. Questa è la chiesa. Il campanile è qua. Fa parte dell'edificio aperto. Direttamente e aperto. Qua saranno delle quattro arcate grandi, ma non puoi sbarrare. È troppo complicato, ci vorrebbe molto, troppo su, tempo. Legname, le persone. Scusami, non c'è una porta giù che dal campanile. No, no, è direttamente. C'è direttamente una scala chiocciola che va. È come se qui ci fosse un buco e da qui parte su, il campanile. Su c'è una pensilina dove tu puoi stare in piedi e suoni le campane. E quindi piove dentro. No, è coperto. No, c'è il tetto. Certo. Le varie cose saranno appunto chiuse in teoria. Cosa? È impossibile c'è le cose di piedi. Di solito c'è una porta che da. Cioè, no, se non c'è una porta. I vari buchi. Così come noi abbiamo Le sono arcate di pietra normalmente, non campanile. Non le chiudi le arcate di pietra. Se no, su un tetto portavano sul legname tutto, sì, ma non puoi farlo non in era modo. Fattibile in quel tempo che avevate. Cioè, devi costruire una struttura. No, beh, se no l'avremmo fatto. Detto. Vabbè, avevamo anche guardato. Sono andato sul campanile. Ma tanto il concetto era di farli entrare. Tanto sti cazzi, i pipistrelli sarebbero entrati lo stesso. Oddio, ho anche pensato di tagliare la campana per bloccare, però. Comunque, se è vera la cosa che i vampiri non entrano invitati, per ora entrano solo i vampiri. Sì, c'è solo un piccolo problema. Che ora noi rimaniamo fuori perché il fuoco e siamo noi contro tutti i quattro vampiri. Se beh, vi buttate vampiri all'interno. Ma attraversate il fuoco. Aspetta, è una prova di destrezza. Sì. Porco Giuda. È che la l'inculata è che tanti pipistrelli sarebbero entrati comunque perché non sono morti. No, a me, cioè, quello che nessuno ha nominato e magari era da fare è che sta morendo della gente innocente. Così, va bene. Cioè. Ma sarebbero morti comunque. No, scappavano, davano dritto e se ne andavano. Vabbè, quello perché sono dei coglioni. Beh, quello sono caduti, cazzi loro. Però capisco un gesto onorevole di averli salvati da una morte impalata per farli morire bruciati. Perché sono disagiati. Beh no, perché adesso arrivano tutti e passano tutti. Vedendo il fuoco non si fermeranno. Tra l'altro, se lui non avesse aperto le porte avrei iniziato ad ammazzarli per impedirgli di uscire. E tra l'altro, se non avessi aperto le porte e loro avessero comunque dato fuoco alle scale, non sarei più entrato con le reliquie. 17! In realtà è andata bene così. Perché l'obiettivo era fare la cazzo di trappola per vampiri. Quindi avrei detto: no, pregate il vostro dio, state qui dentro! 17! 18! 19! Vai, dici. Il fuoco divampa, intanto la gente continua a uscire. No, c'è il fuoco. No, si ferma, ovviamente, perché da una parte è il fuoco e dall'altra. Quindi noi siamo bloccati, abbiamo il fuoco e una barriera di coglioni prima di entrare. Vabbè, adesso entriamo dal... Io comincio ad arrampicarmi, andiamo dal campanile. Da sopra il tetto vedete quattro figure che calano. Però adesso le reliquie sono dentro. Sì, le reliquie adesso sono dentro. E insieme a te vedete quattro figure che calano, cioè, grazie alla luce delle fiamme riconosci tu riconosci il tizio che ora non c'è il problema com'è? E tu i due vabbè il piano è comunque no, se riesce a rientrare e cominciano ci sono sempre delle casualità sette di quelli che sono usciti. Ma scusa, non gli spara fuori le reliquie? No, sono nella chiesa, sono qua. Sono qua fuori. Tra il fuoco e l'entrata. Ah, sti cazzo. Cioè, loro sono dentro al fuoco, però, i vampiri. Cioè, abbiamo creato una trappola perfetta per le persone. Perfetto, perfetto. No, esatto. Va bene. Capito, rientreranno. Va bene, va bene, va benissimo. Sono dentro al fuoco e stanno cominciando a pasteggiare allegramente. A chi tocca? Io comincio a Garrosh. Sì. Vabbè, un turno hanno fatto, ne pasteggiano allegramente. Hanno ucciso quattro persone. Esatto, no? Sono in quattro. Buco fuori e cerco di... Dobbiamo portare la legna, Sì, vogliamo dare fuoco ancora più innocenti a questo punto? No! Il piano è questo! Sì, lui, vedi? No! Che siamo uguali alla fine! Ma siamo sono morti! Cioè, se non sono abbastanza svegli da tornare dentro... Cerco di... Urlate, entrate, esatto, entrate, cerco di cominciare. Rientrate, dentro le reliquie vi salveranno. E tu vuoi sprecare il tuo turno dicendo stanno lì, entrate, entrate. Vabbè, tanto cos'altro possiamo fare? Vai lì, stai là, entrate. No, avessimo l'olio, avessimo... Ce l'avete? Il barile, è dentro. No, dentro, cazzo, abbiamo due barili. Uno pieno avessimo... dentro, qualcosa fuori sarà rimasto. Mocciando quello che è fuori. Tutto? Vabbè, non è che abbiamo usato tutto il barile. Se avessimo tutto il barile l'avete usato, senza lasciato l'altro intonso. Se avessimo noi il barile d'olio lo lancerei. O tiriamo delle spadate. Ma che lo lancerei? Sono delle persone. Ho capito, ma come dice lui, sono coglioni, vanno verso il pericolo. Allora, dai, fai qualcosa. Io gli urlo di entrare. Non possiamo dire niente. Vai, poi fai un persuasion. Gli urlo persuasion. Ma sentivi dirli ad entrare? Vabbè, puoi fare quello che vuoi. Guarda, sempre carisma, faccio merda uguale. Entrate e morirete, tante idee. 20 naturale, però 19. Porca troia. Però 19, perché il però carisma gritato, è Comunque, tra l'altro, in realtà qui è abbastanza stretto, perché qui dall'entrata. Sì, ma infatti avranno ucciso quattro persone, cioè non è sta gran carneficina. Sono tutti lì. No, mi chiedo... Sì, vabbè, ma... I quattro di... Secondo me... infatti il quattro è perfetto. Qualcuno è già scappato, quindi è già scappato. Esattamente, perché stai tirando dei danni che io ho fatto persuasion. Tornano dentro 5 persone. Hai salvato 5 su? Persone. Fuori ce ne saranno un'altra almeno 7-8. Vabbè, ho inconsciente collettivo troppo basso. Fuori ci sono. Posso cercare di colpirli. Quelli che ho detto. No, sì, sono la tentazione. Una coltra di fiamme tra tre loro. Quante spese? Cioè, secondo me sì. Secondo me. Secondo te. Beh, se abbiamo usato un intero barile d'olio. Quanto faccio un salto per oltrepassare. Hai qualcosa? Muoio o prendo solo delle bruciature? Non hai un arco? puoi ragionevolmente pensare di riuscire a saltare. Allora va. Non saltare, vabbè, cazzi tuoi. Vabbè, salto dentro e vi vengo a dare una mano, tanto che lo stiamo facendo. Hai capito, vabbè, non possiamo dirti niente. Vai, fai una prova. E voi lanciate il barile da dentro, il piano era questo? E allora aspetto fuori. Cioè, se il piano era che voi di sicuro lo lanciavate, aspetto. Poco! No, fai quello che vuoi. No, se il piano era quello, sì, allora no, aspetto. Posso provare a colpirlo da qui? Mi beccherò dei danni da fuoco. Ma usa un arco, usa una balestra. Usa l'accetta. E lancia un'accetta. Lancia io l'accetta. Vabbè, raga, non ditemi niente, fa, decide lui. Cioè, no, no, era per sapere non entrare, stiamo per bruciare tutto. Cioè, era il piano, ma se te lo sei scordato... No, pensavo che il barile fosse un... Se non ci basta quello che abbiamo fatto... No, adesso mi spara in faccia il barile. No, allora se quello era il piano, no. Allora sì, gli tiro un'accetta, ma tanto non li colpirò mai. 18. L'hai colpito. Così per buttare via una cetta. Esatto, vabbè, per fare qualcosa. Anche perché se sbagliavo mi facevi tirare un dado percentuale sulle vittime. Vabbè, sarebbero 7 danni. La mia cetta ovviamente è d'argento. Ci hai buttato via una cetta d'argento. Non è d'argento. d'argento. Secondo te. Vabbè, per distrarli anche solo. Quanti danni? Magari 7 sarebbe. Magari anche solo che gli viene voglia di picchiare me invece che gli innocenti. Anche se credo che quello mi ha tirato un'accetta, ma avanti. Resistenza alle armi non magiche, quindi anche se fosse stato d'argento. Ah, ok. Te lo dimezzavo lo stesso. Ma è magica. È un'accetta magica. Va bene. E... ha preso, vai, magari prende fuoco, però mentre passa la fiamma e colpisce. Guardistra. Puoi mettere i bigliettini. Vabbè, tanto colore. Siamo noi. Direi che ce la possiamo fare. E io prendo la legna, quanta più legna posso, vado lì e la lancio nel cerchio. Ma ci sono, ok. Ma ci sono gli innocenti ancora. Dove ti devono lanciare? Ma urla agli innocenti. E poi dico agli innocenti: andate via, andate dentro, che la c'è la chiesa è sicura. La chiesa è sicura, ci sono le ossa che vi proteggono, le ossa di Sant'Andra, il grande. Dovresti urlare un porco. Sono quasi morto per recuperarlo. Porca Sant'Andra. Porca puttana. 8 di persuasion. Ma sei scarsissimo. Escono più persone. Hai detto? Ed escono. Come dici? E lancio della legna che sarà un deterrente. Raga, preparatevi perché se i progeni scappano dal fuoco vi pigliano sicuro. Effettivamente, non mi ricordo se ve l'ho detto, ma siete oltre al padre Lucian gli unici ad essere al corrente della presenza delle ossa. Era un segreto che ci fossero questa reliquia. No, aspetta, noi abbiamo detto a padre di tranquillizzare ai fedeli che stasera sarebbero stati al sicuro, sì, che sì, ma avremmo non sanno fatto... che sono le ossa. Vabbè, no, allora invece delle ossa lo spirito di Santa era un segreto il fatto che ci fossero le ossa. Vabbè, dovremmo solo uccidere tutti quelli che l'hanno sentito. Lo spirito di Sant'Andra vi proteggerà, tanto sempre otto e sempre non mi cagano. Ah, è sempre stato un segreto. Lo sapevate solo voi, e infatti per questo sono rimaste lì per tanto tempo, perché sapendo che c'erano nessuno. Ah, ok. Qui tanto non rimarranno qua. Padre Lucian vi aiuterà. Vai, Atanas. Allora, prima guardo il vecchietto lì e dico: vabbè, non è andata come pensavo. Poi lo butto nel fuoco. Ha tipo la risata isterica. Moriremo tutti. No, questo significa che tu vivrai, stronzo. Ma scusa, puoi lanciarlo. Perché l'idea iniziale era che i vampiri entrano dalla porta, io lo sgozzavo, così usciva tutto il sangue, loro erano ancora più attirati, però vabbè. Prendo il barile. Beh, puoi ancora farlo. Magari. E lo lancio in mezzo lì. In modo che si rompa proprio. Esplode. Beh, sai, bellissimo. Se prendo un barile e lo lancio, si rompe. Hai detto che ce ne sono ancora 8? Sì. Faccio una prova di athletics usando l'inspiration. Stai per uccidere 8 innocenti. Non è una cosa così difficile, però puoi farcela anche senza dover usare l'inspiration. No, non lo facciamo. Noi non tiriamo. Ci fidiamo di Katta. Beh, dovrò fare un no così. No. Beh, vabbè, dipende quanto lontano lo vuoi lanciare. No, prendo il barile. Che nazione è? Mi muovo e lo lancio in mezzo lì. Cioè, non mi sembra una cosa così. Si vorrebbe che si rompesse, però. Magari tira troppo forte, va oltre. se vorrebbe romperlo sulla gente. Vabbè, ma c'è così tanta gente. Scusa, aspetta, no, togli il tappo e lo lanci. Non mi sembrava fare un... Che vorrebbe tirarlo così fuori. Fare una prova di athletics, vabbè, mi sembrava. Vabbè, al massimo lo spacchi. Ma lasciatemi schiena, fare una prova di athletics. No, la tiri e si spacca sulla schiena di uno dei fetti. Madonna, c'era un questo cos'ha? Fumble. 20. Okay. Avreste preso fuoco voi, probabilmente. Esatto, lo rompeva. No, lo rompeva su di me, che era sulla porta. Che porta morte. Il barile si spacca nel cerchio di fuoco. Sì, non sembra che... Io vedo un 1, Ah, è un 7. Ma... E ci sta anche per magari determinare il tiro salvezza che devono fare. Dove c'è anche la legna, quindi un po' di svantaggio. Scappano. Dai, un po'. La legna fa... Un po' di danni più. Farà da carburante dopo. Esatto, il propagarsi delle fiamme. Sulla chiesa. Sui fedeli. Sì, fedeli. Scappate! Cioè, era che non è che prende il barile. No, almeno così, è proprio... loro sono sensibili al fuoco, almeno. Le persone sì. No, ma anche i vampiri. Qualcosa. Cioè, prendono danni raddoppiati. Tipo... Cosa vuoi? Manuale. Sapete che i vampiri raddoppiati... sono suscettibili a... Del giocatore no, o io? Giocatore, sì. Raddoppiati magari no, però normali sì. No, i vampiri sono... all'acqua. Sì, all'acqua corrente. Iniziamo a bere acqua. Sì, esatto, con delle... L'acqua santa? L'acqua santa. Noi abbiamo tutti una fiaschetta d'acqua santa. L'acqua santa gli impedisce la rigenerazione. Il simbolo sacro? Manca il fuoco, immagino. Il simbolo sacro? No? No. Vabbè, mi è appena venuto in mente che avremmo potuto fare una cosa molto meno cruenta. Tipo, vabbè. Usando dell'acqua santa al posto del fuoco, però lei. È stato molto più divertente. Beh, vabbè, gli impediva la rigenerazione, però poi dovevano fargli i danni. Così invece si pigliano i danni e non rigenerano. No, infatti ha detto meno cruenta. Ah, ma perché non rigenerano? Sta bruciando cosa rigenerano. Sapete che la rigenerazione dei vampiri viene bloccata dal danno radiante, anzi radioso, o danno d'acqua santa. Non so come venga definito il danno d'acqua santa. Gli sputi. Niente, gli lanci una fialetta, quelli che abbiamo noi tutti in realtà. Sì, però danno d'acqua santa. La lanci molto forte. Esatto. Il fuoco alchemico. Okay. Danni d'acqua santa. Non... Ma quindi quello che stiamo facendo noi non è... Alchemist fa. Beh, li stiamo bruciando vivi. Secondo me prende tipo danni fissi. Ok, direi di fare così. È vero, sì, l'acqua santa tira addosso a non morto a un diavolo demone, fa 2 di 6 danni radiosi. Dobbiamo sparargli l'acqua santa. Vabbè, prossima volta. Nessuno si è detto che era così efficace. Paladino è lui, il chierico non c'è. E quindi, cosa sta scelto? Niente, abbiamo fatto una roba che magari poteva salvare i fedeli. Non abbiamo fatto una roba. Tira 2 di 6. Cioè, bastava tirargli la passante che facevamo dei grandi danni. Ma è più divertente. Non ne abbiamo così tanta. Abbiamo una. Beh, c'è un prete, prendevi dell'acqua. Era abbastanza facile. 3 delle progenie vengono prese in pieno, una invece 2 di 6. Scrive di mezza, sì. E se diciamo che è il danno dell'esplosione. 3. Bravo. Però lo pigliano tutto, non lo riducono. 3 danni. Esatto. Come 3 danni? L'esplosione fa 3 danni. Ma ha detto tira 2 di 6, ho tirato 1 e 2. Vabbè, era al massimo 12 danni, non è che... E prendono fuoco. Vabbè, non mi sembrano così... preoccupati. Ma vabbè, si preoccuperanno. Sarà l'ultimo. Bene, il primo, quello che sembra essere il capoccia, che era quello che ti ha inseguito l'altro giorno, guarda dentro la chiesa e vede Heinrich van der sì, che è tipo qua, esatto, lo guarda e con i tendini tagliati, mi ricordo. Però... tendini delle gambe tagliati, ricordo. Giulia è saggia alla fine. La lingua purtroppo ce l'ha ancora. Non può sciarmarlo. Mm? Non può sciarmarlo. No, poi gli parla normalmente. Mm. E gli dice: sacco di carne, invitaci all'interno. E vabbè, certo non posso entrare per le ossa. In teoria no. In evidente stato confusionale. Ma arriva tutto! Ah, gli dice: entraci e ti sarà risparmiata la vita per i tuoi servizi. Lui lo sa, e... qui ci sono le ossa però. Li abbiamo proprio fottuti al 100% comunque. Perché questo è perché non abbiamo seguito le istruzioni di Giulio di ammazzare lo stronzo subito. Perché lui aveva ragione. E lui dice: io ho sempre ragione in questa avventura. Sì, padrone, quello che vuole, padrone. Risparmiatevi, vi prego. Prossimo turno, però hai detto troppe cose. Quindi? Quindi il vampiro è la progenie, ride sguaiatamente, pregustandosi già il suo banchetto. Allora, aspetta, tu hai analizzato le ossa e hai detto che funzionano. Ho fatto 20 più 2. Okay. No, per capire, cioè se tu l'hai detto io mi fido tu di tu. Tu sei dentro, il tuo zaino è con te. Sì. Ok. Lei ce l'ha in mano. Il tuo zaino è con te. Ci sono tutte le ossa, proteggono il luogo, in teoria non possono né sciarmare né spaventare. Quindi? Né spaventare. E anche coraggio. E ha anche coraggio. Il buon, già sai nerfata che il buon sacco di carne che sta piacendo, anche coraggio. È appunto avuto il coraggio di aprire così e spargarti la vita. È vero, però adesso tutta la gente dentro in teoria non ha paura. Cioè, non ha così. E hanno paura. Anche coraggio quelli che sono scappati. La paura intesa come l'effetto che ti fa. Ma è protetta. Drago, sì, ma è protetta come? Perché è più coraggiosa. Quindi ha gambe elevate. Ha coraggio. Che cosa fa la progenie? Sì. La progenie ride e avanza per entrare trionfale nella chiesa. E come prova a mettere un piede dentro, stunk. Sì, un 20 che sei. Con Giulio davanti così di non mi passa mai. Fai sacco di carne. No, no, dopo lo faccio. No, lancialo Giulio. No, no. Lancialo. Non se lo lancialo. No, me la voglio gustare, ragazzi. Col padrone. Molto deluso dal fatto che non riesce ad entrare, prende il primo popolano che capita e lo azzanna prosciugandolo. Vai, Race. È sicura quindi? Beh, stai lì a perculare. No, cioè, continua a lanciare le frecce. Ce l'ha. Cazzo, non le ho le frecce. Continua a lanciare. Non hai armi da lancio. No. Lancia donne e bambini che prendono fuoco. L'acqua santa. Vado a prendere il fuoco. Vabbè, no, non per una un boccia po'. D'acqua. È vero, puoi tirare l'acqua santa oppure. No, vado a prendere dell'acqua santa. Ma ce n'è una boccetta? Vabbè, ma ci sarà. No, vabbè, ma ci sarà un'acqua santiera. Oppure un barile d'acqua che il prete benedice. C'è l'acqua santiera. Vado verso l'interno e dico: prete, benedisca tutta l'acqua. Mi dia tutta l'acqua santa che ha a disposizione. Sì, subito. Potevate pensarci prima di dare fuoco per spegnere l'incendio. Va bene anche l'acqua normale. Non si è sciocco. Ti muovi attraverso lo sciame dei pipistrelli. Ma forza. Provochi un attacco. Dopo beh, la Daddy ci ha lui di portarti. Ah, perché lo sciame è ancora dentro. Allora fanculo, attacco lo sciame. Sciame imperverso. Tu hai detto al prete di portarti l'acqua. Non vai verso il prete. No, volevo entrare, ma allora se c'è lo sciame, attacco lo sciame. Ho sparato lo sciame. Allora, il tuo pipistrello dov'è? Il mio pipistrello è morto. 13 e 5. In teoria è uscito. 18. Colpito. Spada corta, colpito. Quindi un di 8 più di 6. Di 8 più di 6. Puoi dire a uno dei. 7 danni. Puoi dire a questo PC che fine è, dov'è il suo pipistrello? Dov'è il mio pipistrello? Sono curioso. Ah, e insieme ai suoi amici che ha appena conosciuto sta facendo un sacco di risate. No, è lì che svolazza in paura. Esce dalla chiesa. È un uomo morto. Ah, è vero, sì, sente il bisogno di andare. Ma nel fuoco o nel... Boh, magari al campanile esce. Magari. Vabbè, ma poi sì, vola. Esce dal campanile, okay. Vola via. L'ha fatto apposta dal fuoco. Va bene. Ok. Era caramelle dal fuoco, così moriva e prendeva un animale utile. È utile il pistello, vi ci aveva già fatto. Sì. In tutto ciò, gli altri tre sgherri. Quello a cui hai tirato l'ascia. L'accetta. Sono ancora nel fuoco. Sono ancora nel fuoco, sì. È tipo una mega esplosione, perché un cazzo di barile di. Sì, barile esploso. Cioè, legna, e adesso cosa? Voi continuate a buttare legna. Sì, dentro. Sì, donne e bambini da dentro, legna da fuori. Fuoco durerà in eterno. Anzi, se vedi che c'è qualche passante, prego che buttiamo dentro. E tu vieni qui, abbiamo bisogno. Con la guardia cittadina si fa le seghe. Entra. Iniziano. Iniziano il loro cazzo. Cazzo, adesso ci arrivano alle spalle le guardie cittadine che ci vengono di brutto. Quindi si beccano altri 4 danni del fuoco che continua a bruciare. Ma secondo voi a che ritmo moriranno col fuoco? Lentissimo. Però arriva giorno. Prima o poi. No. All'inizio del se ne ha di 6 secondi, 6 secondi. Siete stati fortunati. Quanti turni è per arrivare a mattina? Vabbè, però comunque c'è un danno in più che gli fai ogni turno. Sì. Cioè, sì. No, tutto e vi ricordo che loro ripeccano 10 punti vita all'inizio dei loro turni. Ma anche da fuoco? Sì, li vengono bloccati dal danno radioso. Che non è. Vabbè, adesso no, cioè, bloccati faccio io vuol dire che se subiscono almeno un danno non recuperano niente. No, butto il caricatore dei dardi della balestra nell'acqua santiera. Tipo Van Helsing. Sì, ma anche pensavo di andare a prendere tipo nei pugnali e poi. Ma anche solo con una fionda. Schizzetti d'acqua. Se ho una freccia la intingo nell'acqua e gli sparo. Ma scusa, non puoi semplicemente. Boh, non gli faremo il danno d'acqua santa, ma magari passa il danno. Scusa, ma anche non è una battuta la mia, anche solo con una ciotola, fai così. A tanto vale che usi il cazzo di balestra. Per fargli anche dei danni. Ma però quindi non so cosa vuoi fare, vuoi. Vabbè, chi tocca Sceo, vai. I dardi nell'acqua santina. Allora. Hai presente Van Helsing? È questo che voglio capire. Vabbè, vediamo cosa fanno loro. Non provi, non lo so. Magari scappano. Io ci provo, poi se il master dice non funziona, non funziona. Amen. Cioè. Il tizio che gli ha lanciato si gira verso di te e fa un salto per attraversare. Ah, gli dico scusa, non volevo colpire il bambino. Ah, errore mio, mi perdono. Stava per essere un 18 quel dadino, eh. E quindi inciampa in mezzo alle fiamme. Salto un po' corto. Eh sì, vabbè, però se rigirano 10. Sì, sono troppo forte. Vabbè, se gli facciano dei danni in acqua santa non rigenerano più. Esatto, quindi era beccano un turno. Vabbè, però beccano i danni. Però in quel turno, però se lui con la freccia ci riesce, no, beccano i danni della freccia, i danni dell'acqua e i danni del fuoco. Di la regenerazione. No, punto. Solo per quel turno ho detto. Vabbè, se glielo fai tutti i turni. Gli va fatto una fiata di acqua santa ogni turno. Se funziona con le per frecce. Per farvi capire, sono 4, ognuna è challenge 5. Questo non funziona all'inizio del suo prossimo turno. Per darvi la misura delle cose. Beh, in teoria non dovremmo essere in 4, ma in 6. È uguale, c'ha le 5 ciascuno. No, sì, però. Sì, è come se fosse un GS9. Ma forse come le streghe non dovremmo finirlo questo combattimento. Lui usa la sua azione per attraversare le fiamme e spegnersi quelle che ha addosso e è davanti a te. Gli altri due continuano a mangiare. Io mi butto nel fuoco. Non fa meno male, probabilmente. Continuano a mangiare la gente. È uscito, ne ho uno davanti a me. No, in realtà puoi ributtarlo nel fuoco. Continuano a mangiare la gente che continua. Vabbè, posso a usare uscire tra le fiamme. Sì, ma è deficiente la gente. Cioè, c'è un inferno di fuoco lì fuori. C'è un 4 sciami di pipistrelli. Ho capito, ma tra gli sciami dei pipistrelli e un inferno di fuoco, chi è l'idiota che sceglie l'inferno di fuoco? Sono 2 di 4 contro 1 di 4 di danni, quindi siamo lì. Ok, normalmente non sarebbe così. Sono molto pistoli. Voglio dire nella realtà che si butta nel fuoco. Una progenie vampirica di fronte a te. Vado in ira e se lo colpisco lo spingo 10 piedi indietro. No, se no scusa, ne è uscito uno, non seccatelo. Non per fare la ricorsa. No, quello per caricarlo, tu devi proprio spingerlo e basta. Attaccatelo. Non sono così dal fuoco io, No, sei così da lui. Ah, okay. Tu la passata ce l'hai. Prova di forza per spingerla. Non so come. Sì, è una prova contrapposta. Athletics. Cioè. E se uno impianta un paletto nel petto? Sono solo folklore. No, no, quello è. Che un vampiro è distrutto. Mi dà l'inspiration. Sei preso in lotta. Per forza. Se lo prendi in lotta, io lo. E lo butto nel fuoco. Lo prendo in lotta. Un vampiro è distrutto se un'arma di legno è. Ma non è immobilizzato in lotta. Gli attraversa il cuore quando è incapacitato nel suo. Cazzo. Nella sua tomba. È comunque, okay. È comunque D&D. In realtà ce l'avrei per ammazzare. Lui resiste. No, aspetta, posso ritirare perché mi dà l'inspiration, sì, però ritira. Domanda, non lo faccio, però se io lo prendo in lotta, lui può a colpo sicuro dare col paletto? No, perché comunque, in realtà un modo se l'avrei per ammazzarne uno, se riuscisse, perché io però con un'azione potrei portare... Te l'ho detto di non dare l'inspiration perché non vale un cazzo. Ma ha fatto 20 di dado lui, cosa avete rinunciato? Ma noi lo sappiamo. Io sì. Vabbè. Guardi strano. Quindi cosa non posso fare altro? Ah, hai usato uno dei... Ah sì, è un attacco. Vabbè, posso fare un'azione di movimento? Dove vuoi andare? Quant'è il muro di fuoco? Un quadretto. È solo un quadretto? Ma la striscia di profondità se non disingaggi. Scritto, becco una botta ma vado dentro. Loro non ci colpiscono più dentro, per le reliquie. Se stiamo qui stiamo a prendere botte e moriamo io e te. Bisogna spalettarlo. Bisogna spalettarlo, non hai capito che ci ammazzano. Non c'è il colpo preciso, così buttate qua. Cos'è il colpo preciso? Come posso fare per provare a provare un paletto? Un paletto funziona quando lui è nella sua tomba incapacitato. Ah. E se gli metti il paletto nel cuore. Cioè, distrutto. Il colpo di grazia dopo che l'abbiamo portato a zero. In termini di gioco, lo dico male, però. Niente, io provo a fare un balzo enorme per andare dentro. Beccandomi danni, dando opportunità, quello che vuoi. Va bene, fai una prova di atletica e lui ti proverà a fare, aspetta però, perché lui ci ho provato colpisce, a dargli uno spintone, non è riuscito, però lui, dentro. Se ti colpisce con le sue con il suo artiglio non ti colpisce, beh, ok, cosa succedeva? Prendeva in lotta. Ah, ok, faccio 21. Arrivi. Ma in realtà la scelta è facile adesso, cioè rientrate dentro. Io sono appena entrato. Attraversi tranquillamente la barriera di fuoco con un salto e le fiamme si spostano. E stavolta te ne sei andato bene. Non mi devi dare l'ispirazione, non sei un cazzo. Scusa, volevo salvarti la vita. Ok, io a questo punto. Quanti danni hai preso? Niente, perché ho fatto 21 di atletica. Vabbè, ma entra nel fuoco. Ha fatto un salto diretto. Allora, anch'io voglio. Ma c'è il fuoco attraverso. Si è buttato, è entrato direttamente. È solo un quadretto. È passato abbastanza veloce. Sì, ma dentro c'è il fuoco. È solo un quadretto, io salto, faccio un salto totalmente tanto la striscia di fuoco. Ma se lo dite che non prendo danni, Cristo di Dio, va bene così. I cazzo di quattro progenie sarebbero dovuti ardere. Infatti. Però non cioè, quello che dico io, poi vabbè, è che il quadretto c'è il fuoco. Ma dentro c'è anche il fuoco, quindi tu devi saltare tre quadri o due quadrette e mezzo di solito. Di fatto, ha fatto un punteggio sufficientemente alto. Allora, io vorrei fare una roba simile, ma come azione vorrei chiudere il portone. Entrando. Beh, un'interazione gratuita. No, no, cazzo, chiudi il portone, la gente si sfascia sui paletti. Sti cazzi, se sta dentro non si sfascia, metto io davanti alla cazzo di porta. No, no, aspetta, attacca lo sciame. Non ha senso chiudere. Tanto sciami li attacchiamo dentro. Dentro aspetta, aspetta, non ha senso chiudere la porta. Tanto loro non entrano con le reliquie. È inutile. No, io voglio che la gente non esca perché ha rotto i coglioni. Ma di uscire a mandare non a parte sta più uscendo. E come no? Stanno uscendo. Ma c'è il fuoco? E sono dei coglioni. È quello che sto dicendo a due turni. Non meriti di morire, lascia perdere. No, vabbè, chiudo così non esco. Arriverà su di me che gli dirò toglietevi. No, e non passano. Normalmente sarebbe un'azione, ti servirebbe un'azione per chiuderlo in più. Porca troia, io ce l'ho l'azione, movimento in più azione. Hai il flusso di gente contraria. Ma sei pazzo, la gente ti arriva addosso, ti schiaccia sui quindi paletti. Devi riuscire a superare. Ma scusa, ma cosa faccio una prova di athletics. Sì, ma poi la devi rifare sulla gente che ti schiaccia contro io i paletti. Io lascerei morire pure infilzato dai paletti. Sono un paladino, sono qui per questo. Come al massimo muoio, però Questi, cioè veramente non tanto so... non posso star fuori, cioè, cosa comunque fedeli, no, fedeli, scusa, fedeli, fedeli, fedeli una minchia, perché non si fidano della chiesa, corrono verso il fuoco pur di non stare dentro la chiesa, cioè, no, ma entri, scusa, ma non hanno visto che lui non è riuscito ad entrare, ma evidentemente non gli impugnano. Aspetta, fermo, cioè, allora, non fedele è uno che crede nella sua chiesa, nel suo Dio, questi sono dei coglioni, io questi sono nel panico, esatto, ma io mostro il mio simbolo sacro, da una parte c'è il fuoco e dei vampiri, dall'altra dei pipistrelli. Eh sì, vabbè, ma tra l'altro il vampiro, tra l'altro il vampiro sacro... che non è riuscito ad entrare. Vabbè, magari dico, quello non tutti avanzo, lo vedono. E avanzo e dico: seguite la luce, fedeli, non lasciatevi intimorire dalle tenebre. Questo lo dici prima di saltare il fuoco. Seguite la luce, e vanno tutti nel fuoco come le palette. Cioè, tu prima di saltare il fuoco da fuori dici: seguite la luce, venite tutti qui. Ma la luce va verso di loro. Ah. Okay. Brucerete tu. E lui oltre il fuoco fuori che dice: seguite me. Tu dove sei mentre fai questa cosa? Scusa. Ancora fuori. Sei qua? No, io da qua. Preso il simbolo e dico: mi sei entrato in entriamo in chiesa. Vado, prendo sta porta e entro dentro chiudendola. Devi passare attraverso le fiamme. E passerò in mezzo alle cazzo di fiamme. Farò l'athletics, devo fare quello che devo fare. Va bene. Posso fare un athletics? Sì. Perché lui segni dei danni a me no? 15. È saltato, lui ci è passato attraverso. 15. Ah, 15 di athletics. Ah, cioè io le ho saltate nel senso che ho proprio ho segnato sì. Danni da fuori. Minchia. Per quello che dicevo che era impossibile fare. Riesci a chiudere le porte. E ora sono davanti alla porta, adesso vediamo quanti cazzo di fedeli passano sta porta. Se lo schiacciano sui paletti devi dire fino a domani. Merda, sì. Vabbè, con le torce, un vampiro hanno anche le torce. Sì, esatto. Hanno anche le torce. Sono un vampiro, però ti fa un male, stronzo. C'è l'acqua santiera, no? Non sei vampiro, una parte della di paletti. Immergo i quadretti di balestra nell'acqua santiera. No, vabbè, in teoria si ferma. Sta un cazzo di dentro. E poi apro la porta. Come apri la porta? Cosa fai? Aspetta, rifa. Ho immerso i quadrelli di balestra nell'acqua santiera e voglio sparare cazzo i vampiri. Solo che mi hai chiuso la porta. Ci sta, apri la porta. Ma non li ammazziamo quelli, rega. Almeno uno, almeno ferirli che scappino. Se farò, non so. Ho fatto una prova contrapposta. Se lui, se... No, lui se la, lui la vuole... sono chiusa però. Ah, la tiene ferma? Io sono da e vede lui che vuole aprire, Può, se vuole puoi può bloccare. Cercare di impedirglielo se vuole, altrimenti se non vuole non ha bisogno di tirare. Vabbè, non glielo impedisco, però lo guardo tipo della serie di prendi per il culo. apro solo un'anta, non tutta la spalanca. E poi ci pensa la gente a chiudere. Beh, lui è blocco un'altra. No. Sì, dai, fai così, dai. Vabbè, non ho bisogno di una porta spalancata, ne apro una parte e sparo al vampiro che vedo. Che, ma forse è il capo che è davanti. Non esiste il critico mortale in questa edizione, purtroppo. No, vabbè, anche perché 20. Io ho un D8 di balestra. Con un rai. Ma in effetti, se noi siamo davanti alla porta, la gente non dovrebbe più uscire. Non so. Beh, il mio ranger considerato inutile per sessioni e sessioni fece un critico mortale. Cosa devo tirare? Catta solo il danno alla balestra. Tira il danno della balestra raddoppiato perché è fatto critico. Sì. E poi la cosa. Quanto fai? 7 più... No, c'è la destrezza. Quindi. Sì, sì. 9. Cioè, è possibile se lo rigenero di 10 a volta. Beh, 9 più non lo rigenero. Fuoco, questo non rigenera. Lo rigenera mai questo? Questo turno no. Ah, però il prossimo se lo ripiglio. Tutti i danni che gli facciamo in questo turno non lo rigenerano, ma non penso che... Cioè, anche il fuoco in questo turno non se lo rigenera. No, nel senso, questi 9 danni poi li potranno comunque rigenerare il giorno dopo. Sì, però si prende i 9 danni più l'acqua santa più il fuoco. Ma siamo sicuri che sia così? Sì, sì, cioè almeno no, è strano che però l'acqua santa blocchi solo un round di generazione. No, cioè, nel senso, io non dico che debba bloccare, dico semplicemente che quelli lì non li può rigenerare. E anche i danni radianti li bloccano solo un round di regenerazione. Sì, o da radianti. Sei sicuro che semplicemente quelli sono danni radianti? Sei sicuro che quelli semplicemente non li possa rigenerare? Cioè, quelli d'acqua santa non li rigenera mai più. Ma raga, il manuale sotto. Quello che no, si, si chiedeva questo dettaglio qui. Adesso non mi ricordo di troppo, però una volta tipo i danni impedivano, cioè quella non li rigenerava. Una volta ne ha 3.5 la fermavi. Bloccava, sì. E i pipistrelli. I pipistrelli. Il discorso è che siamo al terzo livello, non puoi fare abbastanza danni che se li rigenera tutti. Cioè, okay. Siamo a livello per cui i danni che gli fai in un turno se li rigenera. Se fosse una o due possiamo giocarcela, ma quattro è impossibile. Una? No, raga, una. Una. Sì. Non di più. Una si può stare. Che cazzo è? Rischi, su chi? Vediamo. Tirato un dado. Che dado? E appunto vita. Dado a 20. Come vi pare? 8. Se fosse una, sì. 8. E gli fai... Forse. Tirato un dado da 20. 6, sì. Una. Tutti? Sì. Perché cos'è? Per vedere chi attacca i pipistrelli. Boom! 12. Non è chi fa di più, vero? 7. È chi fa di meno, vero? 12. Ho sprecato un 20 naturale, quindi non vorrei essere colpito. Chi se la bulla di più mi sarebbe colpito. Esatto. No. Ma me colpisce Sceo. No, lo puoi colpire meglio. E anche in Nira, è perfetto. Sì, no, non sono in Nira alla fine. L'avrei usato per fare il caricamento, ma non l'ho usato alla fine. Il caricamento. Non sono andato in Nira. Il loading. Sì, e si chiama caricamento. Il buffering. Esatto. Cosa vuoi? Di 4. No, in realtà ho laggato probabilmente perché il fuoco non mi ha fatto niente, quindi ho laggato. Allora. Dovevamo bruciare la casa, comunque. Hai capito? Ho laggato, prima ero lì, poi ero lì. Ah, no, non c'è. Ma a quanto pare non serve bruciare niente. No, se bruciavi la casa morivano per forza perché c'era il sole e il fuoco. Sole, i pipistrelli ti fanno 10 danni. Ma perché me ho fatto 20? Appunto. E col sole diceva no, muoiono. Sei una grandissima. Col sole non rigenerano, muoiono. Basta, uccidiamo il prete. Sole non rigenera. Quando sono nel sole prendono 20 danni radianti quando iniziano il turno nella luce del sole, quindi non rigenerano perché sono danni radianti. Sì, e li dobbiamo legare. Questi erano i pipistrelli. Li ammanettiamo. Sì, ma come le fermi? Ora, il loro capo... Per me tra un po' se ne vanno. Noi siamo tutti dentro, cioè con le reliquie, loro vanno lì. Finita la pappa che hanno davanti, se ne vanno. Ah, siete tutti dentro? In questo momento sì. In questo momento sì. Tranne alcune persone. Tranne il pipistrello bruciate. Aggiungerei giustamente. Beh, alcuni saranno passati di canzone. Pochi. Niente, sentite le urla sovrumane provenire da fuori mentre vengono massacrati orribilmente. Massacrati, sono. Se scappano tra le fiamme si fa. Voi due davanti venite premuti dalla folla che vuole uscire contro gli spuncioni. Madonna, sono stato dei ricoglioniti. Dai, ma sono dei cerebrolesi, ma cos'è? Vabbè, se loro stanno uscendo, se tu entri chiedi la porta, loro continuano a uscire. Ma a parte che sembrano 8 milioni di persone probabilmente. Nel vostro turno potete fare. Sono usciti qua. Per adesso provate a resistere all'impeto. 40 persone ti sparano in faccia. Nel modo che preferite voi. Magari non... Troppo impetuoso, dai. Io ho fatto uno. Che bello, mezzo impalato. Oh, mezzo Giulio impalato. Sì, 4 in totale. Un danno perforante, dai. Un pizzicorino alla schiena, sentite. Ecco, la cosa positiva è che adesso non ne usciranno più. Adesso cioè, ne escono più sicuro. mi sa che... mai Cazzo, ho ucciso loro! Mi sa che tu che sei buono cioè tu che sei un paladino ora non reagisce, non fai niente, ma quello di fianco a te secondo me gli hanno finalmente dato il pretesto per fare una strage. Mi stacco ancora lo sciame, sono l'unico che lo fa. Volete uscire, prego. E 14 e vabbè di più. Beh, dopo mi arrabbierò con padre Lucian. Beh sì, cazzo, no, no, dai, in realtà sì, la colpa è sua. Voglio gente sveglia, gli 8 danni così. Sempre. Vabbè, oh. Dov'è quel posto che ha fatto il massacro dentro la chiesa? Beh, ma qua è fuori, ma, va là chi? Ma anche dentro. Va là chi? A parte che è tardi in realtà. Sì, infatti muoviamoci, raga. Sì, sì, ma adesso... Sì, vabbè, ormai Garrosh, cosa fai? Ormai sono 5 ore. Attacco anch'io lo sciame, l'unico che dovrei... Sì. Non so se attaccare la gente o... Vai. 17. Sì. Oggi sto facendo delle robe, ovviamente col martello. Sì, non so, anch'io lo sciame. 1, 2, 3, sì, distruggerà gli sciami, poi ci pensiamo. 4. Compreso il più 3. Di cosa? Di danni? Martello, sì, contro lo sciame. 4 danni. Ma sei fortissimo. Eh sì, ho fatto uno col dado. Guarda, strano. Provo ad attaccare anch'io gli sciami. Cazzo, così pensavo perdo l'accetta, però. Pensavo ai popolani. Vai. No, popolani. Ma riesci ad attaccare lo sciame anche se hai i popolani che lo schiacciano. Non ha tipo svantaggio, è difficile. Cioè, non so, è che addosso ai popolani c'è lo sciame, quindi. Ah, quindi colpisce tutti. Quindi attacca anche ai popolani. Ormai lo sciame e i popolani è l'unica cosa che si muove, l'unica nuvola. Non abbiate paura, qui siamo al sicuro. E adesso non è decapito. Ti prego, se fa fumble, becca qualcuno. Bilico? Sì, sì, è bilico. Se non è uno, 14. È bilico. No, beh, poi ritiro. Colpito. No, non ritirare, beh. 12 più 5, 17. Ah, peccato. Ah, è un sacco che non faccio dei danni. Sì, lo sappiamo. Veramente tanto. Lo sappiamo. Boh, 14 danni. Quanti? 14. Cazzo. I cazzi. Che noi alla fine non attacchiamo mai. Perché? Atlas. Ci siamo, raga. Attacco la folla. Cioè, la folla mi sta spingendo con le spongioni. Sì. Mi giro e strago le spade. E niente, attacco due popolani. Ma perché? 10 e 17. Ah, adesso combattiamo io e Giulio. Dico 4 e 4. Dai. Quanti punti? Perché? Dai che metti in difficoltà anche il catta così. Ma cazzo, sti qui sono dei deficienti. Sì, attacca, no, il cazzo, no, di sciame. Cioè, devi mettere tu lì che c'è. Io ho provato ad attaccare lo sciame, ho mancato e ho beccato i popolani. Ti rendi conto che è colpa nostra? Cioè, siamo stati noi a spiegare i vampiri a beccare la chiesa. Sì. Beh, avrebbero forse. Ah, no, la cosa che avremmo dovuto fare è bruciare la casa. Vabbè, erano tutti dei vegliani in realtà, è solo che non ce n'è fatta passare uno. Sì, non sarebbe morto nessuno se noi non avessimo fatto niente. Forse. Perché, lasciavi qui le reliquie, i vampiri non entravano, i fedeli non uscivano. Magari ci avrebbero attaccato lo stesso. Se noi stavamo dentro, zitti e buoni, con le reliquie, con i fedeli, loro non entravano mai, non moriva nessuno. Beh, i pipistrelli. Tipo quello che stava dicendo Lucian. Che stava... Beh, però i pipistrelli sarebbero entrati uguali. Se impanicati lo stesso, sarebbero usciti. Ma non c'era nessun paletto su cui schiantarsi. Ma i vampiri li avrebbero massacrati tutti. No, gli avremmo impedito di uscire. Ci mettevamo davanti alla porta, gli impedivamo di uscire. Con l'aiuto di padre Lucian. Dipende, lì bisogna vedere come la tocca lui. Riesco da fare. Chi è che mi ha fatto. Ma solo me attaccano. Attacca ancora gli sciami. Ma che t'hanno assaggiato? Attacca ancora gli sciami. Mancato, 2. Tra l'altro sono il più basso io di tutti. Cazzo, cioè, sono un nano, i pipistrelli stanno lì, attaccano gli... Ma non possono mangiare gli umani. 9 danni. Cioè, uccide uno sciami. Bravo. Ora tocca ai popolani. Tocca ai popolani. Ah, i popolani che spiamo adesso che hanno visto i poveri massacrati. E sono saggio. È saggio, Giulio. Sono più spaventati di lui e di tutto il resto. Quanti ne avrò salvati? No, uccidendone due. In realtà, se il mio personaggio morisse, sarebbe molto meglio. Cioè, io non posso. Che cazzo faccio? Questa va. Non hai detto, però, che tu l'abbia visto. No, di fianco! Però sta attaccando uno sciame. Lui intanto ha fatto così. Garrosh. Allora, nella confusione può capitare. Esatto, non hai detto che tu l'abbia visto. Prova ad intimidire la folla, costringerla ad andare verso padre Lucian. Ma la folla si è fermata. La folla si è fermata. Si è fermata. Tornate fuori! Li ha massacrati. Sono massacrati due. Ok, vado. Ora sono scappato dall'altra parte. Vado dal portone. Se la si gettano dal campanile. Ci sono ancora dei sciami. Garrosh, ci sono ancora. Aspetta, ci sono ancora due sciami. Progedia, aiutateci! Allora no, attacco di sciami. Pensavo fosse solo uno. Sono quattro. Sono ancora tre sciami. 18. 5 danni. Ho fatto due stavolta. Tu devi fare tipo. Cosa vuoi che faccia? Vez, vai. No, lui. Del tipo non letali. Vai, Vez. Ah, cazzo, è vero, adesso si gira. Ah, già. Ragazzi, il mio personaggio avrebbe mai fatto. Vabbè, io. Tiro un urlo, onestamente tiro un urlo ad Atanas di cosa fai, pazzo? Vez, dovresti dire, Vez, ormai hai capito come io urlo in vano e poi prova a attaccarlo sciame. Scusa, attacca anche tu il popolare, diventa uno di noi. Diventa uno della compagnia. 10. 10 per colpire lo sciame? Sì, mancato. Cazzo, ci ho provato. Hanno 12. Ragazzi, diventa uno di noi. Giulio, pensi di colpire lo sciame? Non salire, no, adesso si va. No! Cioè, ma mi è arrivato il grido tuo, cosa fai, tipo? Cosa fai, pazzo? E rispondo: salve i popolani! Attacco lo sciame, critico. Ah, ah, ok. Con il 19? Sì, perché il campione ha un 19-20. Ah, tu sei il campione, sì. Solo lui sei e l'altro è... Salvo i popolani! A terzo livello. Dalle progetti. No, 11 non l'ho beccato. Fa culo, perché non ho più... Come se avessi colpito con lui. Se lui ti avesse dato il D4 sto giro avrebbe funzionato. 14 più 2... 12 sessioni. Voglio riposo, dormire. Hai fatto un riposo breve. Qualcosa. Voglio dormire, voglio salire. No, c'è quante cose. Che lagna. Poi, non sei tu che devi fare il rituale? E poi lo sentite? Un drago, anzi no. 10 draghi. Ora il fuoco. Basta, dai, siamo in 4. No, questa volta sarà qualcun altro. Secondo fammi indovinare, uno sono io. Sì. Di classe armatura 14. Mi cadono tutte e due. Sì, hai pure crittato. Hai fatto critico. Oh, grande, scio, grazie. Vabbè, minchia, solo io. Quanti punti per te hai? Cazzo, ma fa tutto io sta. Quanti punti hai? 23. Sì, sì. Il colpo normale fa 5 PF. Il critico fa 12. Quindi? È giù. Ah, sul serio? No, attacca a me allora, cazzo. non pensavo che facesse così tanti danni, minchia. Cazzo, vai, di pistolini di merda, a me ha fatto sempre poco. Faccio un tiro, salvezza. Sarebbe triste. Si prepara. Fumble! Due fallimenti! Grazie, scemo, dopo tutto. Vabbè, ho capito. Dopo tutto il flash che ti ho dato. Vabbè, ma non ho detto attacca lui, ho detto attacca un altro. Sì, ma dici che è giù. Sì, dici che è giù, vezzo. Ma io non sono... Vedete... Dici che è giù, bello, vedete? Crolla. No, perché abbiamo 50 pezzi. Vabbè, lo vedono, di merda. Beh, credo che i popolani siano un po' dispersi da questa parte. Vabbè, lo vedono che va giù. Sì, vedete Race che viene smangiucchiato dai pipistrelli. Che ironia. Che ironia! Ho fatto tutto in questa sessione eppure muoio. Che ironia. Garrosh, tocca a te. Posso... Che ironia, che ironia. Ho aizzato dei bambini a attaccarmi e sono e dici non lo posso fare solo se ce l'ho. No, se hai lo stesso. Tanto fa un bel fan. Vabbè, posso provare. Provo. Dai, ci provo. Forse allargando questa ferita. Puro, vai. Boom, fallito, morto. Ho fatto 3. Beh no, no, vabbè, non è che ti non ho vantaggio perché un popolano magari è un medico. Del no, tu fatti i cazzi tuoi. Ti curo da solo. Tocca proprio a me, no, mi cura. La dolce vende. No, mi curo da solo. No, no, no, lasciami morire, ti prego. Ti prego. 5 punti per te. Poi lui me li infligge in realtà. No, ti cura, ma il suo massimale si abbassa di non uno. Non farlo, lasciami, mentre il suo si lasciami alza, stabilizzare da solo. Non posso fare altro, ma no, vabbè, ho scioccato. Dai. Quindi gli curi di 5? Sì. No, ma tanto ti pigli un attacco di opportunità. Dai pipistrelli. No, entra nell'area minacciata. No, esce anche dalla sua area minacciata. Sono lì in mezzo. Ma sì. Uniscilo. Ma porca. E quindi il suo massimale aumenta di 1. È vero, sì, lui ci guadagna. E il mio diminuisce di 1. Vabbè, Vezza è quasi tornato al suo massimale, 27 su 30. Beh, appena sparge la sifilide esatto, ancora un po'. Ma vaffanculo, scemo. Beh, dopo può curare anche noi però, Atanas. E si ribecca lui. Sì. Noi dobbiamo... Atanas, vedi perché... Ho capito, Sala. Se il chierico e il druido non mancassero le sessioni insieme, magari... No, no, raga. Ho il piano geniale. Abbiamo ancora il tizio con i tendini tagliati vivo. Come arrivi? Almeno il mio personaggio no, terzo livello sarebbe stato più forte rispetto a questa merda. E l'altro però è 21. Avrei avuto un PG di terzo livello più forte rispetto a sta merda ambulante. Beh, in realtà non... Vabbè, perché c'hai il problema del Race. Sì. Sei... Io mi... Esco fuori. prendetemi. No, io dico, Ray, sono la soluzione. Mi butto nell'olio. Allora, faccio un'investigation per vedere se ho capito. Per voi, ben cotto. Forse no. Vabbè, ha qualche capello bianco, dai. Hai capito? Ogni sessione sono più scarsi. No, no, ma ho capito come risolvere il tutto. Vabbè, tu ti sei appena ripigliato, cosa fai? Ho finto di essere morto. Ok. Sì, buon idea. Tolgo delle altre reliquie dal sacchetto e me le metto in tasca. Se lui fa finta di essere morto, devo capire se è morto o no. Vabbè, lo vedi che si muove. Sì, l'ho visto invecchiarsi, quindi capisco che l'ha curato. Esatto. E niente, attacco lo sciamo. Beh. Segno che ho altre tre reliquie. Bruciamo la chiesa, no, stronzi. Per colpire. Cazzo. Ne avevamo mangiati dalla scena. Dovevamo salvarvi. Cazzo servono le progenie. Dovevamo. Che ironia. Dovevamo salvare la chiesa e abbiamo ucciso tutti i fedeli. Oh, 18. Pensavo fosse un critico con quelli. Solo perché ha colpito. Vabbè, 12 danni. Muore. Ah, fanculo. Ma ce n'è ancora. Atanas. Ma non hanno attaccato i sciami sto giro. Sì, hanno attaccato me. Mm. Ah, non ci sono più io, non mi attaccano più. Ci sta. Vabbè, ne avete ammazzati 3 su 4, quindi ormai rimane l'ultimo. Dai. 15-19. 9. Race. Mi rialzo e mi ridraio, già ripensato. No, è attacco lo sciamo. Manca, no, 7 più. 15 colpito. Cioè no, cioè 12 colpito. 12 colpito. E mancato. Quindi è un furtivo. 7. Com'è furtivo? Stai, gli sciami prendono il furtivo? Siete tutti addosso lo stesso. Sì, non ci sono differenziazioni. Allora sono. Aveva resistenza ai danni, effettivamente avrei potuto farli durare. Pure 18-21 sì. Danni. Però anche con resistenza o meno, questi bastano. Trick. Dai, tocca al prete. Allora. Oh, ripulite la chiesa. Per avere più facile uccidere le progenie. Ora apriamo e lanciamo 15 litri di acqua santa al minuto. Fuori le urla si sono placate. Ah, sono finiti. È finita la pappa. Aprite il portone e rimangono delle fuori delle ceneri. I vampiri sono morti! Li abbiamo uccisi. I popolani li hanno uccisi. Le anime dei poveretti che erano usciti. Beh, almeno non sono diventati dei vampiri a loro volta. Forse. Magari sono già andati via. No, sono delle ceneri. Alcuni. Magari sono andati via con loro. Se volete assicurarvene, dovete contarli, fare l'appello. No, dico cuocerli a puntino finché non rimane niente. Per cosa? No, basta. C'è un lavoro per te, Giulio. Cadaveri no, basta, fuori dalla chiesa. No, basta portarli in chiesa. Non possono rigenerarsi. Oppure li portate in chiesa. Se nella chiesa ci sono le reliquie. Si tagliano le teste, cosa fanno sempre di voi? Sì, ma magari sono i fedeli appena morti, non è che arrivano davanti agli altri. Vabbè, hai ragione. Peccato! Attendiamo. Siete in maniera un po', diciamo, rocambolesca, riuscite ad evitare che si mangiassero tutti quanti. Diciamo però, che al netto di tutto, aveva ragione il prete, se ci facevamo i cazzi nostri con le reliquie qua dentro. Almeno uno. Una gioia. Daccelo. Ce lo vuoi dire? Sapore, questo uomo. Ce lo vuoi dire? Dai, ve lo voglio dire. L'after lo facciamo la prossima. Che veramente abbiamo distrutto praticamente questa comunità senza motivo alla fine. Sono morti altri quanti? Quanti sono morti? Una decina sono morti. 60 e qualcuno magari è riuscito a scappare fuori. 17 morti. 17 morti. E pensa, è un quarto. Io ne ho uccisi solo un quarto. Ma no, dai, qualcuno è uscito. Ok, io ne ho uccisi più di due perché ho anche lanciato il barile. Qualcuno non è riuscito ad andare oltre le fiamme. Però una soddisfazione, abbiamo ucciso di più noi i vampiri. No, in totale tutti quelli morti uccisi da voi dai vampiri. No, ne abbiamo uccisi di più noi i vampiri. No, ne le fiamme. Forse noi. È grande, almeno la gioia, cazzo. Saliamo per next, per questa la maggior parte è viva e il parroco è vivo. Per cui sali traumatizzati a vita. Però in realtà, se avessimo fatto come ha detto il prete, cioè lasciate qui le reliquie, fatevi i cazzi vostri, non sarebbe morto nessuno. Ma i pipistrelli sarebbero andati con lo stesso, loro sarebbero scappati impauriti. E quindi o noi troviamo un modo per bloccarli. Sì, oppure, esatto, ci chiudevamo dentro. In teoria, esatto, la cosa era stare tutti davanti alla porta e combattere contro i popolari. No, una volta entrati i fedeli, sbarrarlo in modo che i fedeli non... Oppure lui ne ammazzava due come ha fatto. Giotta, ma non abbiamo voluto provare qualcosa in più. Vabbè, dai, la creatività è stata punita. È stata punita. Ma perché avremmo dovuto bruciare la casa subito? Beh, raga, non vi preoccupate, i popolani moriranno. Ah, adesso per forza. Le reliquie ce le ho io, voglio dire. Ah, ti intendevi in quel modo? Sì, anche. Vabbè, ma in generale i progeniti non lo sanno, quindi può darsi che non torneranno. Sanno che le reliquie sono qui. Oppure pagheranno qualcuno per rubare, però ci riproveranno. E ci riusciranno, sta va bene, dai, saliamo alla prossima. Che poi a quanto pare basta inviare gli sciami più stelli dentro, che i popolani scappano fuori e possono ucciderti quelli che vogliono. Effettivamente, vabbè, sì, ci sta che hai paura dei pipistrelli, ma veramente si buttavano in mezzo al fuoco alle progenie pur di scappare dai pipistrelli, cioè avevano questa intelligenza qui veramente. Quando sei in una massa di isterica preda al panico, fai delle azioni che non sono logiche. Questo bicchiere è mio. Sì, sì. E quando ti urlano e ti spadacciano di tornare indietro, tu insisti e spingi i tuoi eroi contro dei paletti. E la prossima volta giochiamo l'after scontro con Vez, che mi dovrà fare la romanzina. Hai una settimana Vez per prepararti il discorso, in vano, perché verrà. Ma in realtà io sono abbastanza amareggiato. In che senso? Non ci credo, avete ammazzato delle persone. La mia linea di difesa sarà, ne ho uccisi due per salvarmi. Pochi, però. 40. No, nel senso che, vabbè, cioè, ok. Salviamo pochi. Vabbè. Probabilmente la cosa migliore sarebbe stata avvisare tutti del piano. Cioè, in realtà, nel senso, vabbè, la mia rabbia per Giulio avrebbe potuto... Cosa, no. Sì, sì, sì. E avrebbe potuto magari, tipo, tirargli un pugno o invece di ucciderli. Però al tempo stesso ha anche evitato che ne provassero a fuggire altri. Quindi la mia tristezza è legata all'intera operazione. Vabbè, aveva detto che erano dei popolani, dei fedeli, non dei cerebrolesi, no? Aspettavo reagissero così male. È stato un po' un fiasco. Cioè, l'unica cosa negativa di sta roba è che mi hai curato. Ci fosse stato qualcuno dentro la chiesa a proteggere dai pipistrelli. Non mi hai salvato, mi hai indebolito. Tipo chi? Vabbè, se fallivi cosa. C'erano due persone, due di noi erano già dentro. Anzi, il quarto livello sarebbe stato più forte. Ma cosa hanno ignorato bellamente? Tanto è sono dei coglioni, cioè quello che dicevo. Volevamo uccidere i vampiri. Scegliamo il nostro stesso livello. Ma ormai lui è quello che sicuramente ne fate più di Lase. No, però è morto. Ah, è vero. Quindi, raga, dobbiamo iniziare. Sì, ma è morto. Sì, ma è una sessione durata tipo due. No, lui dice saresti, perché io ho detto avrei avuto un personaggio di quarto livello più forte rispetto adesso. Personaggio di quarto livello meno matto da Vez più volte. No, comunque adesso la curiamo questa cosa. L'equipaggiamento. Adesso costringo l'equipaggiamento, sono le reliquie del santo. Basta che tu ti prenda cura. Come cazzo, adesso devo prendere tutte le reliquie. Cazzo. Basterebbe che tu prendessi cura come... Io? Come incantesimo. Non ce l'ho, non posso. Perché a quel punto curi le persone. No, non posso. Noi abbiamo il tizio con i tendini tagliati, che è sopravvissuto. Non so bene come, però. Vez cura me e poi cura lui. Esatto. Facciamo così. E lo usiamo come scarica. Vez non sarà mai d'accordo. Vabbè, cioè, la farà Lars. Vabbè, la facciamo la Lars. In teoria non dovrebbe essere così. Va bene. Saluti a tutti, alle prossime sessioni di Tiny and Dragons. Maledizione, anzi, in realtà lo fai stare meglio. No. Può essere una punizione per il suo tradimento con i vampiri. Ma alla fine in realtà lui non ha cambiato niente. Mi ha invitato a entrare? Ma non... No, ma non ha cambiato niente. Ma dal principio, no. Tanto è stato lui a rubare le reliquie la prima volta, quindi merita una punizione. Tu lui a dire di rubarle quelle reliquie. Lui le ha rubate. No, il vecchio. Non le ha rubate lui, ha detto a tizio ti pago se le rubi. Vabbè, è uguale. Basta, abbiamo bisogno di qualcuno che si scarica la colpa. Non è il computer.